Allora, cominciamo visto che il programma di oggi è molto denso. E oggi il libro che viene presentato è il libro di Yann Thomas, Il valore delle cose, pubblicato l'anno passato da Quodlibet. Io dirò solo due cose di introduzione e poi lascerò subito la parola ai relatori. Dunque, il libro che presentiamo oggi direi che è un'opera che definirei formidabile, è un volume che contiene una tale quantità di spunti che credo che ci potrebbe far discutere per ore e per giorni. Un volume che richiede letture, a mio parere, incrociate e interdisciplinari, infatti abbiamo invitato a parlarne sia storici, sia giuristi, sia filosofi, e che suggerisce linee di ricerca e di approfondimento molto numerose, oltre che essere, come scrive nella bella saggio conclusivo Michele Spanò, uno strumento all'altezza delle attuali sfide poste dalla riflessione e dalle pratiche createsi attorno ai popolarissimi beni comuni e alla nozione anche di comune. Yann Thomas, chi è stato forse il più grande storico del diritto romano francese, direttore presso l'École d'études en sciences sociales, direttore anche del centro di studi de normes juridiques, morto prematuramente nel 2008 a soli 65 anni. Il pubblico italiano conosce ancora soltanto queste pagine tradotte appunto dallo scritto originale, che era un saggio pubblicato da Yann Thomas su Les Annales nel 2002, un numero monografico delle Annales dedicato a Histoire et Droit. È stato, come l'ha definito giustamente Paolo Napoli, un pensatore inclassificabile che, lontano dai riflettori e da scelte tematiche che diremo alla page, è stato capace, per una sorta di eterogenesi dei fini ma in realtà di una lungimiranza incredibile, di intuire le vere problematiche effettive, come l'avrebbe definita Althusser, che attraversano le grandi questioni, i grandi dibattiti, capaci tanto di alimentarsi degli elementi più vitali della realtà quanto di impattare con forza su questa realtà. Quindi, che cos'è in discussione in queste pagine di Yann Thomas introdotte da Agamben? Innanzitutto le funzioni stesse, a mio parere naturalmente, le funzioni stesse del diritto e la sua natura. E infatti è tramite un approccio molto originale, proceduralista e pragmatico, lontano da impostazioni soggettivistiche o ontologizzanti, naturalizzanti, che Thomas, peraltro come dicevo prima, il più grande conoscitore del diritto romano, ci svela la potenza delle operazioni giuridiche, il carattere istitutivo del diritto, il suo carattere appunto performativo. Diritto appunto quale parola capace di istituire. Qui entrano in gioco numerose domande e questioni. Proprio da Yann Thomas e non solo, apprendiamo che il diritto ha una potenza di trasformazione senza eguali, trattandosi appunto di una macchina di astrazioni, come ci ricorda Spanò, che per mezzo del linguaggio traduce e produce altrimenti irreale. Che esso, il diritto, e Agamben lo sottolinea con forza nell'introduzione, funziona da strumento di denaturazione del mondo. E d'altra parte sappiamo anche che le operazioni giuridiche partecipano a quella forma di astrazione, per dirla con Marx, con le quali gli individui reali, nella loro singolarità e nel loro essere comune, nella loro realtà fisica, psichica, sociale, vengono allontanati da se stessi, è la dinamica appunto dell'alienazione e dell'astrazione reale, e governati da meccanismi che non percepiscono più come di loro creazione. Sappiamo dunque che la procedura giuridica presuppone altresì pratiche sociali di astrazione. Tuttavia, e questo è il mio anche personale parere, debitore comunque di un dibattito tornato negli ultimi anni in circolazione, resta che l'astrazione giuridica ha natura creativa, capace, come ci insegna Yann Thomas e Paolo Napoli, di strutturare soggetti e relazioni non essenzialisti ma vivificati di quella prassi, di quell'agire, di cui la realtà è storicamente espressione. Proprio qui si colloca uno dei nodi centrali della riflessione che questo volume alimenta, costringendoci a riflettere ancora e ancora sul diritto, le sue procedure, i suoi dispositivi, le sue pratiche discorsive, la sua produttività e operatività. D'altra parte, questo è un libro molto importante anche per tutte le questioni legate al primato giuridico della proprietà, che Thomas in poche pagine decostruisce e mette a nudo, offrendo strumenti preziosi al corrente dibattito appunto sui commons. In tal senso, la cosa del diritto, ci spiega Thomas, non è cosa, ma un'operazione che la qualifica e costituisce come tale. È il diritto che, mettendo fuori commercio le cose sacre, religiose e pubbliche, che escludendo provvisoriamente la res nullius dalla proprietà, si qualifica come macchina di astrazione, capace con le sue operazioni di fare, ma anche di non fare, di una cosa una merce. Non a caso Thomas parla di procedure giuridiche del valore, così come di una realtà delle cose che è dipesa dalla convenzione che le ha fissate, così come di una cattura giuridica delle cose che, scrive lui, le situa su un piano di costruzione politica in cui le loro singolarità anteriori sono rese caduche, poiché si tratta, in questo caso, scrive, della loro qualificazione giuridica e non della loro esistenza prima di esse. Ecco, ora io credo e concludo che proprio la capacità assai rara di mettere insieme, di rinsaldare diritto, storia e società a fare di questo libro un'opera davvero straordinaria, importantissima, di grande raffinatezza intellettuale, di scavo storico ineguagliabile e di interpretazione potente per le stesse grandi questioni del nostro presente. Passo. Se non vi dispiace, vorrei dire io proprio io vorrei introdurre questo, diciamo, insieme di competenze, soprattutto giuridiche, invece vorrei richiamare al fatto che Jan Thomas è arrivato in Italia come uno dei contributi fondamentali al primo volume della storia delle donne in Occidente, di La Terza. Cioè lui nel primo volume compare, curato appunto da Michel Perrault e da Duby, compare questo fondamentale articolo, saggio, grosso saggio di Thomas sulla divisione dei sessi nel diritto romano. Era la prima volta che si affrontava in un'ottica storica, ma potentemente anche esperta delle tecnicalità giuridiche, questo punto di vista. E poi Thomas ha continuato a lavorare su questo. C'è qui Andreina De Clementi, che ha partecipato a un importante dottorato di storia della famiglia, in cui che ha chiamato Jan Thomas, e poi un suo saggio importantissimo sullo ius ventris, no? Sul diritto del ventre delle donne non sposate o ripudiate nell'antica Roma, poi è apparso in un volume, uno dei volumi usciti a cura di questo dottorato. Quindi, e in effetti poi i saggi di Jan Thomas sono usciti quasi sempre prima sulle Annales e poi anche in sedi più giuridiche, perché lui affronta, intanto affronta queste questioni che io mi sono occupata in passato molto, di tribunali, sessualità, famiglia, cioè tutte questioni considerate o competenza di un occhio privato o competenza di un diritto molto molto specifico e di nicchia, no? Oppure addirittura di nessun diritto, no? E quindi è molto interessante osservare dal punto di vista storico quali sono gli interstizi attraverso le quali il diritto poi si appropria di realtà così corpose, appunto, come il corpo, la sessualità e il sesso. A questo proposito volevo richiamare le parole, io farò una brevissima ricognizione su questo punto, proprio per sottolineare questa doppia faccia di Thomas, no? Storico molto, diciamo, molto critico nei confronti del modo in cui il diritto ha fatto fuori la storia dalle sue materie di competenza, e dall'altro lato anche critico di come la storia ha fatto fuori il diritto dalle sue materie di competenza. Quando è uscito il primo volume di La Terza, della storia delle donne in Occidente, era uno scandalo che di questa storia delle donne, di cui si era sempre occupata la storia sociale, no? Nel senso più ampio del termine, e non istituzionale, molto poco la storia istituzionale, invece un posto così rilevante fosse stato affidato a uno storico del diritto. Poi sappiamo come lui abbia tutta la vita patito, o forse anche gioito, di questa sua ambivalenza, no? Per cui nessuno sapeva bene come collocarlo, ma chi è Jan Thomas? No? Fino alla fine c'era questo interrogativo su quali fossero proprio le materie accademiche su cui competere. Dicevo che, per tornare a... io infatti sono arrivata poi a Jan Thomas occupandomi di bioetica e di come la legislazione sul corpo dovesse fare i conti anche con una storia che fino a quel punto non si vedeva. Dicevo che Un'altra, una filosofa che si è interrogata molto sul rapporto fra orientamento sessuale e legge, ed è Martha Nussbaum, la quale in un suo libro, già ormai del 2011, che si chiama Disgusto e Umanità, l'orientamento sessuale di fronte alla legge, in qualche modo termina le sue argomentazioni su appunto che sono una serie di considerazioni sull'incidenza del diritto nella sessualità e i legami che la riguardano. Cioè, stiamo parlando del 2011, oggi è più che mai al centro del discorso pubblico e della riflessione pubblica, però parte da lontano questo tema. E dice, ecco, in qualche modo Martha Nussbaum difende il diritto dalle accuse di insignificanza o dalle rivendicazioni di insignificanza. Ecco, e dice, Walt Whitman non aveva nessuna considerazione della legge, e cita da Foglie d'erba, mantenere uniti gli uomini in virtù di carte, sigilli, obblighi a nulla serve. Sa mantenere uniti gli uomini ciò che aggrega ogni cosa in un vivo principio. E solo i poeti e non i giudici possono offrire quel qualcosa che tiene unite un insieme sociale. Ecco. E invece la Nussbaum dice, credo che il grande Whitman a cui tutti facciamo riferimento, beh, soprattutto in America ovviamente, ma non solo, è il grande Whitman sottovaluti, dice lei, la forza sociale di carte e sigilli. Perché, dice qui cito, la legge tuttavia, che non può far esistere ciò che non esiste, però può stabilire dei parametri che esprimono, che impongono uguale rispetto, proibire alcune situazioni odiose e garantire a tutti i cittadini uguaglianza da parte delle leggi esistenti. In questo modo il diritto, dice la Nussbaum, protegge i diritti dei vulnerabili e invia alla società intera il messaggio che la libertà e l'uguaglianza sono per tutti. Ecco, il punto però è che la Nussbaum non ci dice in virtù di che cosa il diritto invia questo messaggio. Vale a dire, in virtù di che cosa il diritto ha la forza di farsi ascoltare, no? dalla società. E io credo che qui dove si inserisce la voce di Jan Tomas. Jan Tomas proprio affronta questo nodo. Che cos'è che rende la parola giuridica efficace? Perché la parola giuridica ha questo valore, diremmo oggi, performativo, tale da trasformare in realtà cose che prima della sua pronunzia tale caratteristica di realtà non avevano? E questo è il punto molto interessante di Jan Tomas, perché addirittura lui pone la lite, no? Cioè la lite giuridica, alla base della storia, cioè è la lite che fa acquisire realtà storica a cose che prima non esistevano. E quindi in questo senso è molto interessante, si capisce anche l'imbarazzo degli studiosi di fronte a una figura di Jan Tomas, perché lui invade la teoria del linguaggio, perché naturalmente attinge dalla teoria performativa del linguaggio le categorie in cui, che poi applica al diritto, e viceversa, no? Quindi è un andare e venire il suo che è molto, molto spiazzante, no? Per chi è abituato a procedere secondo confini più certi e così certi. Ecco, io proprio non vorrei aggiungere molto a questo, se non che questo piccolo volume, e su questo insiste anche ovviamente l'introduzione di Giorgio Agamben, è molto fondato proprio sulla la capacità del diritto e dell'indagine di Jan Tomas di tenere insieme atti linguistici e istituzioni, e il valore istitutivo del linguaggio e il valore delle istituzioni che prendono dal linguaggio questa e quindi si capisce anche perché gli storici tradizionali lo abbiano come dire, tenuto da un canto, perché è stato uno dei più critici nel come dire, nel mettere in rilievo, cosa da cui non è stato esente nemmeno il lavoro delle Annali, di ridurre tutta la storia a una cosa di proprietà privata, appropriazione, espropriazione, contratti, testamenti, no? Che si tramandano sul fil rouge della proprietà e dei suoi beneficiari o invece non beneficiari. Ecco, questo è quanto lui ci ha lasciato. Io credo che sia più discutibile la parte specifica in cui lui c'è questo accostamento tra i commons, che io non mi sentirei di, non so quanto sia difendibile, cioè il fatto che lui appunto sostiene che al tempo della istituzione della lite come principio di realizzazione delle cose, fosse fondamentale lo stabilire, e quindi poi del mercato e di quello che poteva diventare merce, stabilire anche cosa lasciare fuori, no? Dal recinto di quello che poteva diventare merce, quindi il sacro, quello che non è appropriabile, come la vera, diciamo, base dell'appropriazione. Cioè, io credo che su questo si potrebbe parlare molto, discutere molto, ma su questo mi piacerebbe molto sentire appunto i nostri amici giuristi. Grazie a te. Passo subito la parola. Volevo solo completare l'informazione, sì, che prima non ho dato in pratica, perché io e Antoninaro abbiamo per molti anni gestito il dottorato di storia delle donne e dell'identità di genere. In questo quadro, negli Antonai, che è molto ospite, anche dimostrazione sia della sua estrema disponibilità e anche del suo interesse per questo tema. Tocca a me. Professor Brutti, prego. Grazie. Ma il libro che discutiamo, come già è stato detto, è un libro di diritto romano. Contiene alcuni sorprendenti squarci interpretativi e anche spunti di riflessione che vanno al di là dello specifico oggetto storiografico. Sono spunti che nascono da una lettura delle fonti romane, è una lettura aliena e irriducibile, a me pare, rispetto alle impostazioni dogmatiche tradizionali. È un libro originale e utile anche per gli storici del diritto romano, e io cercherò brevemente di mettere in luce alcuni aspetti che possono fare di queste ricerche, di questo libro, un punto di riferimento nel rinnovamento necessario della storiografia romanistica. Io parto da una citazione. La vita non è in nessun caso un concetto giuridico. Queste parole di Jan Thomas, che Giorgio Agamben ricorda nella prefazione al libro, segnano una prospettiva teorica. Thomas considera il diritto come una tecnica di invenzione, come una serie di costruzioni artificiali e logicamente autosufficienti con le quali si esercita un potere sulla vita, si governa la vita. E su questa base affronta la problematica delle cose fissate nel pensiero giuridico come astrazioni al pari delle persone. Astrazioni al pari delle persone. Il distacco dei modelli giuridici dalla vita evoca l'idea kelseniana della finzione. Finzione è un termine che ricorre più volte nelle ricerche di Jan Thomas. Per Kelsen le norme fingono i soggetti. Il soggetto non c'è come entità dell'essere, è un gruppo di norme che hanno un centro di imputazione comune. Secondo il romanista francese, il diritto, anche quando non si esprime in enunciati normativi generali, forse qui è la distanza da Kelsen, ma si esprime attraverso la risoluzione giurisprudenziale dei casi o nella consuetudine, sempre si impone come volontà. Le sue nozioni sono schemi prescrittivi necessariamente lontani dall'essere. Da questo nasce, secondo me, anche una critica che Jan Thomas rivolge e che secondo me è appropriata alle ricerche di Orestano, in particolare al senso che Orestano dà al valore del nomen nell'esperienza romana più antica. Perché in effetti nelle pagine di Orestano c'è un'oscillazione in quest'idea del nomen. Il nomen è la pronunzia di una parola che magicamente coincide con la realtà, e invece Iantomà mette in luce come il nomen è lo strumento di un'operazione creativa che si volge alla realtà, ordinativa verso la realtà. E qui si potrebbe vedere quali sono le origini di questo dissenso, perché in effetti nelle ricerche di Orestano c'è sempre questa oscillazione tra l'essere e il dover essere. Poi lui era fortemente antichelseniano, quindi questa distanza dei modelli prescrittivi dalla vita naturalmente non gli piaceva. Nel libro di Tomà emerge una domanda: come si costituisce l'astrazione delle cose che sono rilevanti sul terreno dell'economia, e cioè alle quali si assegna un valore? Il diritto ha bisogno di presupporre una astrazione delle cose, poiché a questa astrazione si volge la disciplina dell'appartenenza e dell'alienazione. In altre parole, si volge verso astrazioni la tutela delle posizioni proprietarie e creditorie che nascono nel traffico economico. Le astrazioni giuridiche, le norme che ad esse si riferiscono, rendono sicuri gli atti che si compiono nella sfera dell'economia, rendono prevedibili le loro conseguenze, garantiscono la tutela degli interessi privati. Quindi il quadro è costituito dalle operazioni, come egli scrive, che si relazionano al patrimonio e che hanno a che fare con il commercio, nel senso preciso del circuito giuridico che ingloba lo scambio oneroso e il dono. Qui siamo nella sfera della patrimonialità, siamo nella sfera del privato. E l'autore individua come dispositivo centrale nel diritto romano, come struttura delle astrazioni relative alle cose, la separazione delle res di diritto sacro e di diritto pubblico destinate agli dèi e alla città dalle cose che rientrano nell'area dell'appropriazione e dello scambio. Sono quelle che interessano di più all'autore, su cui si sofferma di più. Però la seconda di queste categorie, lui dice, si fonda sulla determinazione della prima. Il campo di oggetti su cui si esplica l'iniziativa dei privati viene definito attraverso una esclusione. Si mette fuori da esso tutto ciò che è sacro, ciò che è comune a tutti o che comunque è destinato al popolo. Sono categorie elaborate dai giuristi romani. Le res sacre, le res communes omnium, le res publice. Soltanto le cose comprese nella seconda categoria, cioè nella categoria delle res private, sono oggetto di appartenenza e sono coinvolte nel meccanismo della circolazione. E quindi io credo che sia giusto dire che la santuarizzazione delle cose inappropriabili è un'operazione definitoria, serve ad una operazione definitoria, alla costruzione del privato, perché non sarebbe possibile la costruzione del privato se non attraverso una fissazione di confini. Questa santuarizzazione libera tutto il resto delle cose che possono essere componenti di un patrimonio, cioè di un complesso di beni imputabile ad un centro di riferimento di relazioni giuridiche. Per questa via l'astrazione res entro il commercio privato si collega strettamente all'astrazione persona. E la persona può essere l'essere umano, oppure una civitas, un collegium, cioè una comunità cittadina, un'associazione volontaria, a cui si imputano acquisti o perdite. Può essere anche un complesso di beni, l'ereditas, quando l'eredità è giacente, nel periodo che intercorre tra la morte e l'acquisto da parte dell'erede, ereditas iacet, ed è centro di riferimento di relazioni giuridiche. Le cose che possono entrare in un patrimonio sono appropriabili e disponibili, a differenza delle altre che abbiamo detto prima. Questa differenziazione rimanda, come mette in luce Tomà, ad una diversità di pratiche e procedure attraverso le quali si realizza la qualificazione di ciascuna res e la sua inclusione nell'una o nell'altra categoria. Quindi c'è un parallelismo: per le cose sacre o pubbliche sono le autorità religiose, le autorità della città a guidare la procedura, e la procedura è semplice, è una procedura di esclusione dalla appropriabilità e dalla disponibilità. Santuarizzazione, come si dice, definizione di qualcosa che è comune a tutti o che riservato al populus romanus, non può essere appropriato, non può essere oggetto di contrattazione. Quindi si stabilisce la non spettanza delle cose attraverso una procedura di cui sono protagoniste le autorità religiose o politiche. Esse consegnano il valore di quelle cose ad una sfera estranea al denaro. Anche per le res communes, per le quali non vi è un'autorità che dice queste sono res communes, l'autore non si sofferma su questo aspetto, ma le res communes, per esempio il lido del mare, qui vi è una procedura volta a contrastare l'occupazione privata di questi beni, proprio perché sono di tutti. Quindi non una procedura istitutiva dell'essere questi beni comuni, ma una procedura che li tutela, che ne tutela l'essere comuni a tutti. Qual è invece la procedura attraverso la quale si determina a chi spettino e quanto valgano le cose appropriabili ed alienabili? E nella risposta a questa domanda vi è il tratto originale del libro. Io provo a riassumere il discorso dell'autore al quale già faceva riferimento Gabriella. La determinazione del valore è per lui tutt'uno con la procedura che stabilisce a chi spetti la cosa. E la determinazione del valore culmina in una decisione autoritativa. Thomas spiega che entrambe queste determinazioni, attribuzione della cosa e fissazione del valore, sono strettamente legate al meccanismo delle controversie giudiziarie. Con esse si decide, di fronte alle pretese contrapposte di privati in ordine a res appropriabili e disponibili, chi di loro abbia ragione, e si fissano le modalità di soddisfacimento dell'interesse riconosciuto e tutelato. E la modalità di soddisfacimento è una condanna che è necessariamente pecuniaria. Quindi il convenuto, se l'attore ha ragione, viene condannato al pagamento di una somma di denaro, il che vale sia per un'azione in rem, sia per un'azione in personam. La prima è esperibile nei confronti di chiunque contenda il potere privato sulle cose, la seconda è esperibile dal creditore contro il debitore inadempiente. Il termine res non indica soltanto nel linguaggio giuridico romano ciò che chiamiamo bene, qualcosa di utile e disponibile, indica anche il processo, questo sottolinea l'autore, il processo attraverso il quale si riconosce e si tutela l'interesse del singolo ad ottenere quel bene. Res significa la cosa, o meglio l'astrazione della cosa, come abbiamo detto, l'astrazione della cosa privata, ma res significa anche il processo. Noi diciamo anche la causa, la lite, insomma. La determinazione del valore di scambio appare a Thomas chiaramente espressa dal pensiero romano soltanto nell'ambito del diritto e precisamente entro il processo. Il prezzo come elemento delle contrattazioni è scarsamente trattato dai giuristi, che sostengono la inclusione di qualsiasi oggetto entro lo schema astratto della pecunia e riducono consapevolmente ogni cosa ad un valore in denaro, quando lo fanno, quando compiono questa operazione, poiché la riduzione di ogni cosa, qualsiasi cosa privata, a denaro è garantita dai giudizi civili. Quindi i giuristi elaborano questa concettualizzazione del valore di scambio della cosa in quanto parlano della cosa come oggetto che trova la propria definizione nell'ambito di una controversia privata, nell'ambito di un giudizio civile. Vi è una duplicità del significato originario di res. Fin dal tempo delle 12 tavole designa la lite giudiziaria e l'oggetto della lite, quindi fin dal V secolo avanti Cristo. Thomas scrive una res, il processo ne coglie un'altra, la res de qua agitur, la cosa della quale si tratta nell'azione giudiziaria. Ed egli richiama i frequenti accostamenti in età repubblicana tra gli impieghi patrimoniali di res e il processo. Così il sintagma res familiaris, utilizzato da giuristi ed agronomi, è molto probabilmente un processo res avente ad oggetto i beni, famiglia, di un pater, res familiaris. Il rilievo che il giudizio civile assume in questa determinazione della cosa e del suo valore, che è tutt'uno con la tutela del privato, della pretesa del privato, secondo lo ius, questo rilievo deve essere considerato nell'ambito della profonda trasformazione che investe l'organizzazione giuridica della civitas romana, dalla seconda metà del II secolo a.C. Cioè, il discorso di Jan Tomà sulla lite, sulla centralità della controversia giudiziaria, sul valore di scambio della cosa che si definisce nella lite, acquista concretezza proprio sullo sfondo di questa profonda trasformazione. Seconda metà del secondo secolo a.C. L'intensificarsi dei traffici, la crescita di un meccanismo di circolazione che crea segmenti di mercato nel Mediterraneo, lo sviluppo del commercio impongono la disciplina nuova di controversie che si estendono e si moltiplicano non più soltanto tra i cives, non più soltanto tra i romani, ma tra cittadini e stranieri, e i processi divengono meno formalistici. È un processo privato adeguato alla nuova economia, il processo formulare. Nasce il Praetor Peregrinus nel 242 a.C., cioè un magistrato proprio addetto ai rapporti controversi tra cittadini romani e stranieri, che sono rapporti che nascono dall'estendersi di questa nuova economia. È un'economia che vede un surplus crescente nella produzione, oltre la misura del prodotto che soddisfa i bisogni dei produttori, i bisogni immediati dei produttori. Il surplus diviene quindi oggetto di scambio. Aumenta il volume del denaro, il commercio muove dall'impiego di denaro e dall'investimento in denaro. Cicerone nel De Officiis mette in luce come uno degli aspetti salienti della trasformazione sia lo sviluppo, lui scrive, di una mercatura magna et copiosa, multa undique ad portans. E Moses Findi traduce queste parole con l'espressione commercio con l'estero. Cioè si formano ricchezze ingenti attraverso traffici che si svolgono mediante contrattazioni a distanza e queste ricchezze sono investite nei possedimenti agrari. L'origine del processo formulare è certamente da ricollegare alla qualità nuova e all'estensione dei rapporti commerciali. I modelli giudiziari nati in età repubblicana continueranno ad essere impiegati e ad essere punto di riferimento della giurisprudenza fino al III secolo, sopravvivranno fino a Diocleziano, fine del III secolo. Ora, il processo formulare è particolarmente adatto a realizzare la riduzione della cosa al suo valore, perché nel processo formulare si definiscono i termini della lite, i termini della contesa nella prima parte, e poi si rimette l'accertamento dei fatti e quindi anche la valutazione dell'equivalente in denaro rispetto, noi diremmo, al bene leso, ad un giudice che sorteggiato e scelto dalle parti, e quindi spesso nelle fonti questo giudice viene definito come arbitro. E Tomà sottolinea che il valore della cosa che è oggetto della lite viene definito attraverso una stima arbitrale. Attraverso il processo privato, che si fonda sul contraddittorio e nel quale il magistrato fissa i termini della lite e il giudice oppure anche il collegio giudicante pronuncia la sentenza, si concettualizza il valore della res come valore di scambio, si monetizza la res. Tomà cita un'espressione del giurista Pedio, secondo il quale prezzi arerum, i prezzi delle cose, non ex affezione nec utilitate singulorum, sed communiter fungi, i prezzi non si determinano, o meglio, non svolgono la loro funzione, fungi, in base all'affezio. Affezio significa volontà individuale, però c'è anche una pulsione in questa volontà individuale. Una pulsione, un bisogno. Affezio indica il consenso nel rapporto matrimoniale. È un termine, diciamo, che ha numerosi significati nei quali c'è sempre questo elemento della volontà e insieme una pulsione di tipo affettivo, diciamo così. E dice, il valore delle cose non si determina in base all'affezio, cioè non svolge la sua, i prezzi non svolgono la loro funzione in base all'affezio, né in base all'utilità dei singoli, ma in base ad un criterio comune, sed communiter fungi. Ecco, la determinazione di questo criterio comune, se capisco bene il senso del discorso di Tomà, la determinazione di questo criterio comune è determinazione del valore di scambio. La consapevolezza, insomma, della determinazione del valore di scambio è solo nel pensiero giuridico ed è solo nel pensiero giuridico che si riferisce al processo privato, perché questa equivalenza in denaro, questa traduzione in denaro, è garantita con sicurezza soltanto dal processo privato. Allorché il valore della res si determina attraverso un giudizio, Ciò appare attraverso un procedimento diverso da quello del contratto e a fortiori del mercato, ma è un procedimento altrettanto antico e in un certo senso altrettanto astratto. Qui mi sembra che vi sia il punto centrale di tutta la trattazione. La appropriabilità e la disponibilità delle cose che fanno parte di patrimoni e soddisfano interessi privati implicano necessariamente un valore. Non è un valore definito in base all'affezio, come diceva Pedio. Noi approssimativamente possiamo concettualizzare questo valore dell'affezio come valore d'uso, con una nota terminologia, diciamo. Solo che nel Capitale Marx tende a definire il valore d'uso come ciò che equivale al soddisfacimento di un bisogno sociale. Invece nel discorso dei giuristi romani prevalentemente queste idee riguardano i bisogni individuali, il valore d'uso è rapportato a bisogni individuali. Noi approssimativamente però possiamo concettualizzarlo così, ma i beni sono acquisiti entro un patrimonio, sono alienati da un patrimonio in base ad un valore che non è il valore d'uso, ma si forma nel traffico commerciale. Ha alle spalle un lavoro subordinato, come abbiamo detto prima, eccedente rispetto al lavoro necessario a riprodurre le condizioni della produzione. I beni che vanno oltre quella misura necessaria a riprodurre le condizioni della produzione sono destinati al commercio. È così che il commercio e lo sviluppo di un capitale commerciale si lega al modo di produzione schiavistico. L'ipotesi storiografica di Thomas è che il valore di scambio non sia determinato nell'esperienza sociale più antica dalla spontaneità delle contrattazioni, o meglio, che non sia solo determinato dalla spontaneità delle contrattazioni, ma che venga anzitutto e comunque più sicuramente fissato nei processi. Qui si definisce quanto vale una cosa, quanto vale una prestazione, una perdita subita. Pensiamo all'Actio Legis Aquilia, che è l'Actio per un danno ingiusto. Uno per questo danno subisce una perdita, gli sfregiano uno schiavo, glielo uccidono. E come si determina il valore? Si determina come un valore di scambio, tant'è vero che si dice espressamente che il giudice deve fare riferimento, se gli hanno ucciso lo schiavo, ai prezzi dell'ultimo anno, e quindi deve fare riferimento insomma un po' a quello che riesce a ricavare dal mercato. Oppure se gliel'hanno sfregiato, se gliel'hanno ferito, bisogna curarlo e rimetterlo in piedi, deve riferirsi ad un valore che è calcolato dal momento della sentenza dal momento del danno, del danneggiamento, fino a 3 mesi dopo. Bisogna vedere insomma quale può essere il valore delle cure e dei rimedi che sono necessari per rimettere in piedi lo schiavo. In tutti questi casi, voi vedete, il discorso di Thomas funziona perfettamente. Cioè nella sentenza del processo formulare si stabilisce, si fissa con sicurezza un valore di scambio, che è cosa diversa dal valore d'uso della cosa. Lo strumento giuridico per riconoscere il valore di scambio della cosa e il denaro che vi corrisponde è quello che lui chiama la stima arbitrale nel processo, cioè in ultima istanza la sentenza del giudice. Un'osservazione, questa visione si accorda perfettamente, a mio avviso, e forse presuppone consapevolmente, l'analisi che Marx svolge a proposito del valore di scambio nelle società premoderne, facendo riferimento tra l'altro in particolare al modo di produzione schiavistico dell'antichità romana, questo sia nei Grundrisse, il quaderno sulle forme precapitalistiche, sia nel terzo libro del Capitale, c'è un capitolo del terzo libro del Capitale intitolato Cenni storici sul capitale commerciale, ed è quello che ci interessa di più. Nelle società antiche, sostiene Marx, il valore di scambio ha un ruolo soltanto collaterale rispetto al valore d'uso, e spiega questa collateralità. Io adesso non sto a leggere perché il tempo corre, ma insomma da una parte c'è la produzione schiavistica e dall'altra c'è una circolazione di denaro e merci che serve da intermediaria tra la produzione schiavistica, cioè quello che si produce, e qualcuno che acquista, che a sua volta può vendere e alienare prodotti derivanti anch'essi dallo stesso tipo di attività, che non è l'attività industriale, che non sono i rapporti di produzione capitalistici. Quindi ci sono forme sociali date, diverse, estranee al modello dei rapporti capitalistici delle società moderne, e però tra queste forme di produzione che sono aliene, diverse, lontane da noi, l'anatomia della scimmia in rapporto all'anatomia dell'uomo, dice Marx, però c'è una sfera che è la sfera della circolazione, là si formano capitali, si accumula denaro e quindi si determina un valore di scambio. E Marx pone in evidenza una certa problematicità del valore di scambio riferito a cose nella cui valutazione sociale è ancora prevalente l'apprezzamento del valore d'uso, perché nella produzione schiavistica è prevalente questo apprezzamento del valore d'uso. Ecco, a me sembra che a questa consapevolezza marxiana della problematicità del valore di scambio riferito a cose nella cui valutazione sociale è prevalente l'apprezzamento del valore d'uso, a questo aspetto, a questa problematicità, mi sembra che si possa collegare l'idea della creazione giudiziaria del valore di scambio prospettata da Thomas. Cioè un valore di scambio che conduce un'esistenza non fiorente, non è dominante il valore di scambio nelle forme sociali dell'antichità romana. E allora Thomas immagina un meccanismo di eterodeterminazione del valore di scambio, nel quale gioca un ruolo la contesa tra le parti, ma in ultima istanza, così come era avvenuto per la sacralizzazione dei beni indisponibili e inappropriabili, in ultima istanza la soluzione è autoritativa. È una soluzione autoritativa, è la sentenza assistita dall'apparato coattivo che circonda il giudice e che determinerà in ultima istanza le forme di esecuzione della sentenza. E la soluzione è autoritativa ed è questa soluzione autoritativa, questa determinazione autoritativa che fissa al termine del processo l'equivalenza tra bene e denaro e quindi fissa il valore di scambio della cosa. Cerco di essere estremamente sintetico, giovandomi anche dell'utilissima messa a punto giuridico-tecnica che ha appena fatto Massimo Brutti. Allora, vorrei subito, a modo di introduzione, partire dalla contestualizzazione di questo saggio. Cioè, questo saggio nasce nelle Annales, appare nel 2002 nelle Annales, e si può dire che in qualche modo le Annales, conferendo a Jean-Thomas l'organizzazione di un numero su storia e diritto, si espongono a quello che realmente è questo numero e in particolare il contributo che dà Jean-Thomas, cioè a quello di una sorta di colpo di stato intellettuale. Perché oggettivamente affidare a Jean-Thomas l'organizzazione sulle Annales di un numero su storia del diritto con l'impostazione che ci è appena stata presentata da Massimo Brutti e anche da Gabriella Bonacchi, significa in qualche modo esporsi, diciamo, a rimettere in discussione tutte le incomprensioni che le scienze sociali hanno alimentato attorno al diritto. E tra queste incomprensioni, naturalmente, le Annales hanno giocato un ruolo chiave. Quindi c'è una sorta di sfida che loro organizzano e che del resto è una sfida che subito Thomas accoglie, perché nell'introduzione al volume si può leggere un vero e proprio manifesto teorico nel quale si rivendica allo storico del diritto il compito non tanto di colmare lo scarto tra le norme e i fatti, tra le regole astratte e gli attori concreti, quasi per ristabilire quella trasparenza tra i due piani, no? Diciamo, era il motivo delle scienze sociali fondamentalmente questo, diciamo. Non immaginiamo le istituzioni come qualcosa di estrinseco, cerchiamo di concentrare la nostra attenzione sugli attori in carne ed ossa, perché è lì che si realizza la storia. Ebbene, proprio per cercare di colmare questo scarto, in realtà Thomas propone che anziché di colmarlo bisogna accentuarlo. Cioè, la specificità del diritto non è quello di alimentare la trasparenza tra il piano delle norme e il piano dei fatti, dice, bensì è proprio quello di far sì che queste regole astratte rimettano in discussione questo rapporto diretto che tra le norme e i fatti le scienze sociali pretendono istituire. E grazie a questa mediazione Massimo Brutti ha appena parlato, diciamo, del momento istitutivo dell'autorità che, diciamo così, quasi sottrae alla dinamica degli attori la determinazione del valore delle cose. Ecco, diciamo, questo è il caso classico che ci dimostra come la mediazione istituzionale è fondamentale. E quindi, lo cito, lui nella prefazione dice: l'operazione giuridica non risiede nell'impensabile o impossibile imposizione della legge ai fatti, ma nell'atto di rimodellare questi ultimi qualificandoli per realizzare quel giudizio di valore che l'operazione giuridica stessa prescrive. Ecco, questa, diciamo, è la linea su cui più o meno tutti gli altri contributi cercano di fare i conti, però questa è una linea forte, è una linea immediatamente polemica che colpisce al cuore il paradigma stesso delle scienze sociali. Ecco, se questo è il contesto in cui matura questo saggio, che è perfettamente coerente con questi presupposti delineati nell'introduzione, vorrei indicare solo qualche elemento che invita alla riflessione. Io non parlo da romanista che non sono, diciamo, e cerco un po' di capire in che senso, in cosa risiede anche quell'inclassable, quell'inclassificabile dell'intellettuale Jan Thomas. Allora, tra questo inclassificabile, il fatto che lui sia uno storico del diritto e non ovviamente un romanista, secondo la classica bipartizione che nella scienza del diritto romano ancora esiste, e che ci tenga a essere uno storico del diritto e non un romanista, resta il fatto che, diciamo, da un pensiero che pretende, che ripone nell'astrazione un elemento fondamentale nella creazione di oggetti sociali, è chiaro che già che questa tensione si predispone essa stessa a essere valutata anche per un apporto teorico, e diciamo più lato senso filosofico che il pensiero di Jan Thomas esibisce. E naturalmente confrontarsi con la questione della cosa è uno degli oggetti speculativamente, dal punto di vista filosofico, più interessanti e più intriganti. Forse fino adesso non è stato detto, ma diciamo una delle caratteristiche del pensiero di Jan Thomas è quello di non prediligere la mezza misura, ma sposare in maniera radicale proprio la radicalità, diciamo, che è una radicalità non ideologica, bensì euristica, cioè di approccio alle cose. E in questo senso un saggio che interroga la maniera in cui il diritto ha elaborato una pratica e un pensiero della cosa, non può non richiamare, Massimo Brutti ha parlato di Marx naturalmente per quanto riguarda la questione del valore dell'astrazione, ma interrogarsi con questo grado di radicalità sulla cosa è inevitabile che il riferimento vada a Heidegger, naturalmente con tutte le debite differenze. Qui si sta parlando esclusivamente di approccio radicale alla questione, non alla risoluzione del problema. Quindi, molto noto è la riflessione di Heidegger sulla cosa, e profondamente diverse sono le vie di uscita che in Thomas e in Heidegger si danno sulla questione, anche se c'è questa condivisione di un approccio, questa tensione radicale ad affrontarla. Ecco, innanzitutto in Jan Thomas c'è una sorta di preminenza dell'essere delle cose sull'essere dell'uomo. Questa è una sua costante, diciamo. Cioè, riflettere l'uomo attraverso questa base materialistica delle cose. Cosa che del resto non appartiene, diciamo, a una sua presunzione ideologica, ma a un riscontro nel diritto romano. Questo gli permette di sterilizzare, diciamo, qualsiasi approccio in termini di antropologia storica. Quindi il diritto, il rapporto tra soggetto cioè l'analisi delle cose non è il riflesso del rapporto tra soggetto e oggetto, le cose non sono lì per il soggetto, ma le cose hanno una loro autonomia che merita di essere decifrata a quel livello materialistico. Quindi c'è tutta la polemica con da una parte c'è tutta la polemica contro il giusnaturalismo neotomistico di Michel Villet, il cui seminario Thomas aveva frequentato, ma giustamente per distaccarsene e per, diciamo, dirigersi verso più una concezione del diritto romano che era propria dell'altro suo maestro, che è André Magdalen. C'è questa, quindi, diciamo, una traccia materialista, giustamente tra l'altro rilevata da Michele Spalò in questa sua bellissima postfazione, che spiazza completamente il ruolo del soggetto come termine per cui e grazie a cui le cose esistono. Ecco, magari riprenderei un attimo un passaggio del valore delle cose. in cui dice: il diritto romano si interessò meno alle persone che alle cose e senza nessun bisogno di un corpo doppio, una figura amministrativa che dopo tutto avrebbe potuto in un modo o nell'altro modellare, proiettò la sua organizzazione della durata sulle seconde più che sulle prime. Questo tratto dipende d'altronde probabilmente meno dall'antropologia culturale che dalla lunga storia delle forme dell'organizzazione patrimoniale, quindi vale a dire dalla storia del diritto. Ecco, diciamo, c'è qui subito, tanto per rimanere su quella polemica con le scienze sociali, un colpo mortale, da parte della sua prospettiva, assestato agli approcci antropologici al diritto. Secondo aspetto, anche in Iantomà in fondo c'è un'interrogazione su quell'esser cosa della cosa, su cui si interrogava Heidegger, cioè su quell'elemento condizionante che fa sì che una cosa sia questa o quella. Cioè, fondamentalmente anche Thomas si pone la questione: che cos'è questo incondizionato che ci permette di dire che una cosa esiste? Naturalmente l'incondizionato per lui è il diritto, è il momento istitutivo, il momento decisorio, il momento dell'autorità, cosa che lo pone al riparo dalla profondità ontologica in cui invece ricade Heidegger. Quindi la ricerca di un condizionato, quindi seppur relativo a una mediazione sociale complessa che è il diritto, emerge in maniera chiara in Iantomà, il quale è anche lui alla ricerca di un punto di inizio delle cose, anzi di un rinizio che è indifferente a ciò che lo precede e che è comunque governato da un criterio estrinseco ad ogni ontologia. L'inizio è quello a cui le fonti permettono di arrivare, non è un inizio ontologico, è un inizio profondamente storico. Possiamo dire che qui l'ontologia è completamente storica, allora, se vogliamo. Ora, sulla base delle fonti, Thomas può dotarsi di una base empirica per afferrare l'essenza storica delle cose per intero plasmata dal diritto. Ecco, lo cito ancora: la cattura giuridica delle cose le situa su un piano di costruzione politica in cui le loro singolarità anteriori sono rese caduche. Ecco, c'è una sorta di tabula rasa, il momento iniziale coincide con il momento giuridico. Ciò che accade prima alle cose è irrilevante. Questo incondizionato, quindi, non riposa al fondo di un'ontologia, è una sorta di tensione a una radicalità, potremmo dire, orizzontale, presa tra le frontiere amplissime, ma oggettivabili, dei cosiddetti casi limite. Perché il modo di ragionare di Iantomà sul diritto era un modo casistico che non si accontentava di trovare il caso come mediazione ordinaria, ma dalla divaricazione dei casi limite il diritto trovava le sue soluzioni ordinarie. In questo caso i casi limite quali sono? Sono l'entrata e la fuoriuscita delle cose dal commercio. Poste queste due frontiere, all'interno di questi due limiti si gioca tutta la partita del diritto. Questo è l'incondizionato, che però è istituzionalmente situato in uno spazio e in un tempo precisi, caratterizzati da due elementi irriducibili: il linguaggio e il gesto ordinato, dalla cui combinazione si dà il rito. E qui il rito per eccellenza nel diritto è il processo, da cui quell'identificazione già sottolineata che il termine res possiede, in cui si indica tanto la causa, quindi il costrutto istituzionale al cui interno deve accadere qualcosa, quanto il qualcosa stesso, cioè in francese il jeu et l'enjeu, il contenitore e il contenuto, realizzando così quella che lui utilizza anche come termine, diciamo, ricorrente, una sorta di perfetta ipseità giuridica della res. Il contenitore e il contenuto coincidono. In questo senso precisa che è nella causa, cioè nel processo, più che nello scambio, lo diceva Massimo Brutti, il luogo in cui stabilisce la qualificazione giuridica e il loro valore di cose. Questo ancora si capisce come insista su questa polemica forte con le scienze sociali, con la storia sociale e con la sociologia degli attori in particolare. Perché mentre queste sono tutte votate a prendere come atomo di intelligibilità ultimo il soggetto in carne e ossa e a capire il senso della storia a partire da come ogni soggetto si muove, Iantomà gli mette i bastoni tra le ruote, diciamo così, no? Dice: guardate che tra il soggetto e ciò che fa non c'è questa trasparenza immediata, c'è inevitabilmente questo luogo della mediazione istituzionale di cui bisogna prendere atto. Di qui il principio cardine, in qualche modo, del regime ontologico, tra virgolette, e pratico delle cose che esistono nell'atto stesso di essere valorizzate. In questo caso, con buona pace dell'opposizione classica che da Kant giunge a Kelsen tra essere e dover essere. Un'altra di queste opposizioni binarie, perché il kelsenismo di Jan Thomas è molto, diciamo, come dire, venato anche di elementi contrari al suo interno, è molto problematico. Una delle opposizioni che lui, diciamo, ritenendola, diciamo, costruita sulla base storica del diritto, che rifiutava, era questa dell'opposizione tra essere e dover essere. Nel diritto, designazione e qualificazione sono le due facce della stessa operazione. Allora, a questo punto, se il rito condiziona, quindi il processo condiziona l'esser cosa della cosa, no? Designandola e allo stesso tempo dotandola di una qualità valoriale, allora si ripropone qui, sempre per rimanere nel confronto con le altre scienze sociali, il problema del carattere derivato del diritto dalla forma rito, che evidentemente appartiene alla sfera religiosa. Allora, qui si apre un altro aspetto. L'edizione italiana ha omesso il sottotitolo del saggio. No, ma non è, sarà stata un'astuzia editoriale, perché ovviamente se no interessava solo i giuristi la cosa, e i romanisti in particolare. Perché il sottotitolo nell'edizione francese recitava Le droit romain hors la religion. Ora, da un punto di vista storico-genealogico, è l'ipotesi più forte del testo. Cioè, il diritto romano nasce in contrasto con la religione e non è una filiazione. Questa è la tesi forte che lui tende, diciamo, anzi, lo dice in maniera proprio chiara, e dice: io rivendico questo come il mio cavallo di battaglia, come un mio principio forte. Storicamente fondata. Sì, ma infatti, diciamo, no, io credo che lì non ce l'avesse forse con i suoi colleghi della materia, ma bussasse sulla porta di Durkheim, diciamo, ecco, questo è. C'è un distacco chiaro, infatti, anche se non è espresso, dalla sociologia religiosa da un lato, quindi con Durkheim, e poi anche da tutta un'altra antropologia dell'antichità. Infatti, secondo Durkheim, come è noto, il diritto è una forma pratica e spirituale che, come ogni altro fenomeno della civiltà, trova nella religione la fonte primordiale e di cui continua a soddisfare, con il proprio apparato categoriale, la stessa funzione, cioè celebrare la vita collettiva, cosa che la religione ha simbolicamente fatto dietro la creazione della divinità. Ecco, pensare che il diritto riproduca con altri mezzi questa stessa celebrazione della divinità che è propria del religioso e che dal religioso mutua è proprio, diciamo, l'obiettivo storico-genealogico con cui entra in polemica. Se per Durkheim la religione è il contenitore unico da cui hanno preso forma tutte le manifestazioni della vita collettiva, dai miti e le leggende ha preso forma la scienza e la poesia, dagli ornamenti religiosi e dai culti cerimoniali sono nate le arti plastiche, dalle pratiche rituali il diritto e la morale. Ebbene, questa posizione, che tra l'altro, però credo che questo, diciamo, valga esclusivamente sul versante greco, trova nella lettura dell'antropologia classica di Gernet in Grecia, l'altro, diciamo, l'analogo, no? In cui c'è questa nozione di prediritto, che non, il diritto non sarebbe che un precipitato di pratiche che appartengono alle ritualità magico-religiose, per cui non avrebbe un'autonomia. Ecco, contro, diciamo, queste immagini che fanno del diritto un precipitato del religioso, Jan Thomas vuole mostrare che nella forma storica dell'esperienza romana questa cinghia di trasmissione tra religione e diritto sia stata recisa. Vorrei leggere qui un altro passaggio che mi pare abbastanza chiaro in questo. Ecco, in questa fuoriuscita le categorie della religione, sta argomentando, diciamo, il fatto che il diritto, invece lui dimostra che il diritto, poi vedremo che il diritto privato, si afferma in quanto emancipazione dalla sfera religiosa. Ecco, in questo passaggio, in questa fuoriuscita, le categorie della religione appaiono nella forma più esplicita come l'inverso del diritto. Ecco qui proprio la presa di posizione. Ritengo possibile e perfino necessario comprendere l'idea di una fuoriuscita dalla religione come un consapevole strumento di costruzione giuridica. Il diritto romano si è chiaramente pensato come fuoriuscita dalla religione e ha pensato il commercio come rimozione di un interdetto. Allora, sulla base di questo passo che ho appena letto, e vado verso la conclusione, si possono fare almeno due osservazioni, credo. Allora, la prima è che tra le tantissime prove portate a sostegno della sua tesi, la più emblematica mi sembra quella che riguarda la cosiddetta cosa pura. Questo brano che ho appena citato viene alla fine di una digressione sul concetto di purezza, della cosa pura nel diritto romano, che era tale perché liberata dall'interdetto religioso che la proibiva agli uomini e veniva perciò data o restituita al commercio e quindi all'ambito del diritto privato. Quindi una cosa pura era una cosa giuridica. Ecco, appare immediatamente una sorta di circuito preferenziale tra purezza e diritto che abbiamo appreso a conoscere sotto forma di dottrina generale in Kelsen e di cui Thomas ci restituisce una sorta di pregresso storico. Ecco perché i rapporti con Kelsen sono sempre piuttosto, diciamo, contraddittori, mai unilaterale, e questo rende Thomas un inclassable, in questo senso, anche in questo senso. Ecco, quello che per Kelsen è un'esigenza scientifica da seguire, cioè la dottrina pura del diritto, per Thomas è un risultato acquisito come momento genitale del diritto stesso. Un altro elemento su cui riflettere, in base a questa dichiarazione di fuoriuscita del diritto dalla religione, nel confrontarsi con la vexata questio, non genitale nel senso, nel genitale proprio dell'origine, no, genitale proprio come elemento di nascita, non che genera, nell'atto dell'essere nato, diciamo, portato alla luce. Forse faccio un francesismo, vabbè. Si usa comunque, vabbè. C'è un altro problema. Cioè, nel confrontarsi con la vexata questio dell'autonomia del diritto, autonomia che secondo il paradigma fondatore delle scienze sociali risulterebbe pregiudicata e sacrificata sull'asse genealogico, religione, società, ecco, Thomas considera la rimozione dell'interdetto religioso come fattore che apre il campo al diritto. Ma ovviamente qui stiamo parlando del diritto privato, perché il pubblico, e quindi il diritto pubblico, resta dall'altra parte della divisio tra cose sacre, religiose e pubbliche da un lato e cose patrimoniali dall'altro. Cioè il pubblico continua a condividere col religioso e il sacro lo stesso spazio, in virtù di quella indisponibilità che li contraddistingue, cioè le cose pubbliche, le cose sacre, le cose sante sono indisponibili, e il pubblico in questo senso condivide lo stesso spazio del religioso e del sacro, condivide quella sorta di immortalità giuridica di cui parla il testo di Jan Thomas. Allora qui si può dire che da una lettura un po' in capo, diciamo in controluce di questa liberazione del diritto privato dall'influenza della religione, si getta una luce probabilmente al di là delle intenzioni dell'autore, perché su questo non insiste molto, sullo statuto complesso del diritto pubblico, precisamente per il suo occupare lo stesso spazio del religioso e del sacro. Cioè, Jan Thomas si interessa al diritto privato, ma fa capire anche che il diritto pubblico rimane in quell'altra sfera. E naturalmente questa prossimità diventa per certi versi problematica, col costituirsi in termini di ecclesia della religione cristiana, visto che il pubblico, il religioso e il sacro finiscono per insistere sullo stesso spazio e si calpestano inevitabilmente i piedi. Allora, questa mancata fuoriuscita del diritto pubblico dall'ambito religioso e sacrale comporta delle evoluzioni storiche precise, che sono tutti noti, tra cui il cesaropapismo orientale veicolato dallo scirmo ortodosso è solo la più visibile, ma anche dei problemi teorici notevoli come il rapporto tra Dio immortale e Dio in terra, che ci appaiono sicuramente molto più intellegibili, molto più comprensibili e soprattutto comprensibili in maniera diversa da quanto ci offre il tradizionale paradigma della teologia politica o della secolarizzazione. Ecco, grazie quindi alla visione di Jan Thomas, noi possiamo meglio capire, per esempio, che il diritto pubblico, e in particolare la Costituzione, è una sorta di santuarizzazione di quelle astrazioni formali che sono le res leggi, alcune delle quali, come per l'appunto la Costituzione, sono trattate come cose un po' meno disponibili, diciamo così, di altre. E ancora, grazie a questo studio, riusciamo meglio a capire lo straniamento che ci coglie di fronte a una nozione, per altri versi stimabilissima, nel senso proprio della stima, del prezio, come la sovranità, quando questa, come è accaduto in un recente processo, viene sottoposta a un pretium da un tribunale della Repubblica. Perché è accaduto, è un fatto, diciamo, di un processo per mafia nella Calabria del 2006, che lo Stato sia stato risarcito perché la sovranità è stata violata, menomata. Una grandezza inestimabile di colpo subisce questo trattamento, che nell'edificarla, nel riconoscerla, in realtà la sottopone a un regime che non è più quello dell'indisponibile, ma lo sottopone a un regime della commercializzazione, quindi a una sorta di privatizzazione. Ecco, credo che, diciamo, la lettura di questo testo ci permetta anche di andare là dove questo testo non ha afferrato, diciamo, completamente tutta la dinamica del diritto. Grazie Paolo. Adesso Maria Rosaria Marella. Bene, io penso che questo libro sia veramente prezioso perché effettivamente spiega e svela in modo semplice e tutto sommato in poche pagine alcune dinamiche fondamentali del diritto, per cui sarebbe effettivamente molto importante anche offrirlo agli studenti di giurisprudenza dei primi anni. E io ne ho individuate quattro e cercherò di essere breve perché appunto ripeterò molte cose già dette e cerco quindi di essere meno noiosa possibile. Innanzitutto la questione dell'ambito di operatività del diritto e di ciò che non è diritto, quindi il rapporto fra diritto e fatto, fra diritto e natura. E diritto e società. La seconda questione, il rapporto regola-eccezione. La terza questione, quella della qualificazione giuridica, dunque della disciplina e dello statuto, in questo caso delle cose. E la quarta questione è quella della tutela, che rispetto alla quale io ho un approccio, diciamo, biografico molto forte, con cui non vi annoierò troppo, ma qualcosa racconto. Dunque, allora, venendo al primo punto, voglio richiamare proprio la frase di Antomin che riprende Giorgio Agamben e che ha già citato Chiara nella sua introduzione. Cioè, il diritto funziona, dice Antomin, come uno strumento di denaturazione del mondo. Ma al tempo stesso è produttivo di una nuova realtà che emerge appunto dalla trasformazione che il diritto impone della realtà naturale. Il diritto si definisce quello che è l'ambito della propria validità, stabilì appunto attraverso un meccanismo di inclusione e esclusione, quindi ciò che è diritto, ciò che sta fuori dal diritto. Qui c'è una cosa molto importante che dice Tomà, che mi pare che riprenda Agamben, cioè il fatto che i limiti che si pongono al diritto non vanno intesi come normalmente vengono intesi, quindi come qualcosa che argina il diritto posto dall'esterno, ma è lo stesso diritto che pone i limiti a se stesso, in questo modo autoproteggendosi e in questo modo anche definendo quella che è l'area della sua, della progressiva invasione del sociale che costantemente opera. In questo senso io, che appunto ho una appunto non sono una storica ma faccio la giurista positiva, individuo un legame interessante invece con la tradizione del realismo giuridico americano, dove da Hoffel, da Robert Hale, del famoso saggio Coercion and Distribution in a Supposedly Non-Coercive State del 23, si definisce molto bene quello che è l'omissione da parte del diritto, come l'omissione sia in realtà giuridificazione anch'essa, molto chiaro, per esempio in Hofeld, quando parlando di proprietà e di struttura dei diritti, appunto, ci fa vedere come davanti al diritto c'è la posizione di non diritto, dove quella posizione di non diritto è anch'essa qualificata quindi dal diritto. E qui quindi, per riprendere anche una bella recensione al volume scritta da Lorenzo Coccoli per la rivista Critica del Diritto Privato, viene in mente appunto che proprio tutto questo sia ripreso da Agamben, il quale pretende poi di tracciare una sfera di non diritto, ma in realtà è un'operazione appunto che Lorenzo Coccoli definisce impossibile proprio per questa capacità del diritto di performativa, che appunto va al di là del suo stesso ambito, del suo stesso oggetto. Mi sembra analoga tutto sommato l'operazione che compie Jan Thomas rispetto alla questione della regola e dell'eccezione. Questo libro è stato molte volte richiamato, e lo accennava Gabriella Bonacchi prima, perché viene visto come una sorta di strumento e di legittimazione anche storica del comune. Perché? Perché nel saggio di Jan Thomas la proprietà privata, come già stato detto molte volte qui, è ricavata e nucleata per esclusione da ciò che è indisponibile, da ciò che è sottratto a forme giuridiche di appartenenza. E quindi si ribalta rispetto a quello che è il paradigma moderno il rapporto regola-eccezione, perché la proprietà privata è eccezione, eccezionale, laddove invece appunto nell'approccio moderno sono semmai beni comuni che danno bisogno di legittimarsi, cioè ciò che è sottoposto all'uso, ciò che è sottratto, diciamo, non voglio neanche parlare di beni comuni, ma parliamo di ciò che è sottratto all'appartenenza ed è destinato ad un uso collettivo, ebbene è quello ciò che è eccezionale. Qui abbiamo esattamente un rovesciamento di prospettiva nel rapporto fra regola e eccezione, che da un punto di vista, diciamo, strumentale ci può interessare anche perché propone una diversa genealogia della proprietà. Più in generale ci interessa, a me sembra, perché ci fa vedere come il rapporto regola-eccezione sia un rapporto che non si dà una volta per tutte, ma che è assolutamente manipolabile, e sono operazioni che i giuristi fanno costantemente, magari senza dirlo. Un'altra dinamica, la terza dinamica che mi pare centrale è appunto la questione che cui accennava Paolo ora, fra designazione e qualificazione, la qualificazione come ovviamente, cioè come sempre nel giuridico, la qualificazione serve poi ad attribuire a ciò che viene qualificato un determinato statuto, dunque una determinata disciplina. In questo, nel caso del valore delle cose, appunto, ciò che il momento di qualificazione passa per il processo e per l'attribuzione di un valore. Qui quello che diceva Massimo Brutti, secondo me, è il fatto di sottolineare l'importanza del processo, quindi dell'istituzione, dell'autorità rispetto alla definizione del valore da parte del mercato, è molto importante ed è un argomento molto forte rispetto a tutti i tentativi di attualizzazione del diritto romano, perché effettivamente noi ragioniamo sempre in maniera appunto opposta, cioè la contrattazione è ciò che definisce il valore e ciò che serve poi alla migliore allocazione delle risorse, salvo, come sappiamo, i costi transattivi. Qui invece abbiamo appunto un approccio completamente diverso, in cui la contrattazione non è sufficiente, evidentemente, perché per motivi vari che sono, penso, autointuitivi, e per questo motivo è invece rilevante e centrale assolutamente la questione cioè la presenza del processo. C'è un passaggio che mi ha colpito, ciò nonostante, perché comunque delle analogie con dottrine anche presenti sovvengono di continuo leggendo questo libro, ed è il rinvio al giudizio comune. Cioè, spiega appunto Iantomà come cioè si definisca pretium l'ammontare della controversia, e il pretium appunto viene definito da un rinvio al giudizio comune, che non è un rinvio a un valore di mercato, ma è invece un intervento arbitrale di un giudice che fa appunto che cosa fa? È interprete del senso comune di quel tempo e di quel luogo. E questo è interessante a proposito di una degli schemi di lettura più usati nella letteratura giuridica contemporanea, che è quella proposta da Calabresi Melamed, Property Rule, Liability Rules e Inalienability, perché lì appunto Calabresi ci dice che quando si accede alla tutela per equivalente, quindi al risarcimento del danno, abbiamo una stima collettiva, una valutazione collettiva che nel processo statunitense passa per la presenza della giuria, ma che non è un rinvio automatico al mercato. È la giuria che in qualche modo appunto interpreta un sentire comune, e questo mi sembra particolarmente interessante, anche se appunto mi rendo conto anche della scivolosità di certi collegamenti così attraverso migliaia di anni, cosa di cui appunto diffidare, ma trovo che ci sia una qualche effettivamente familiarità fra quei due modi di affrontare la questione. Tutto ciò, la valutazione della qualificazione, serve poi a stabilire quella che è la tutela. Emerge costantemente l'importanza della moneta. La moneta, la valutazione in denaro, lo stesso concetto di obbligazio che ha ad oggetto necessariamente solo una somma di denaro. L'esito del processo è sempre solo l'attribuzione di una somma di denaro. Laddove invece, in ciò che sta fuori dal commercio, per ciò che è indisponibile, troviamo finalmente forme di tutela in natura, forme di tutela specifiche, quindi che modernamente definiremo ripristinatorie, restitutorie, inibitorie e così via. Allora, e qui viene la parte autobiografica. Io ho studiato per molto tempo la questione del risarcimento in forma specifica e mentre preparavo la tesi laurea, che era appunto su questo argomento, con il professor Adolfo Di Maio, a un certo punto mi rivolsi ad un giovanissimo professore di diritto romano, il professor Massimo Brutti qui presente, che era stato mio professore di diritto romano, perché c'era questa questione che io non riuscivo a capire. Cioè, si diceva che il risarcimento in forma specifica è un'invenzione tedesca, e appunto, infatti, è presente nel Begebè ed è il frutto del giusnaturalismo, è un frutto, uno dei frutti del giusnaturalismo, e però appunto questo ha questo carattere. Diciamo caratterizza il codice tedesco, e io non riuscivo a capire perché in una fase di nascente capitalismo si abbandonasse l'astrazione della moneta per rivolgersi ad una forma di tutela in natura che sembra più arcaica, no? Tutto sommato. E infatti poi il professor Brutti mi fornì molte fonti, eccetera. Poi ho continuato a studiare sempre questa cosa per molto tempo, fino al 2000, in cui ho finalmente pubblicato un libro in via definitiva su questo. E effettivamente quello che emerge nel cammino del diritto è progressivamente un affermarsi però di questi principi. di tutte le informa specifica, per esempio l'attenzione all'adempimento in natura piuttosto che attraverso appunto ottenere semplicemente una somma di denaro a titolo di risarcimento. Ed allora mi chiedo se tutto sommato quello che cioè i tentativi che avevo fatto io stessa non fossero di dare una spiegazione a tutto questo, non fossero del tutto sbagliati, cioè l'idea innanzitutto l'idea di pensare al diritto come sovrastruttura semplicemente, e dunque ricollegare il risarcimento al sostrato capitalistico, e dunque non capire come le due cose potessero stare insieme, cioè come l'attenzione verso la tutela in natura potesse armonizzare appunto col capitalismo. E forse anche le altre spiegazioni non sono soddisfacenti, non sono mai conclusive, per esempio la spiegazione che si dà in analisi economica, che non si riflette la stima idiosincratica che il mercato appunto non è in grado di riflettere, ma è pur presente nella cosa, per cui ciò rende il risarcimento del danno sottocompensativo, dunque inefficiente, perciò è necessaria la tutela specifica. O ovviamente quanto richiamava Massimo Brutti prima, cioè il fatto che è difficile riflettere il valore d'uso perché è qualcosa di molto complesso, per realtà gli studiosi di analisi economica e del diritto ci hanno detto che il valore d'uso è ricompreso nel valore di mercato e basta, quindi non esiste e non se ne parla più. Ora, pensando a tutto questo e ritornando a quella che Michele Spanò molto puntualmente definisce come l'indole costruttivista e artificialista della ricostruzione di Jan Thomas, viene in mente un'altra ipotesi a proposito di quanto poi dice Jan Thomas stesso e dice Michele Spanò nella sua postfazione e Agamben nell'introduzione, e cioè appunto il fatto che il diritto tende a travalicare i limiti che esso stesso si pone. Allora, mi viene in mente, ed è un'ipotesi probabilmente balzana, ma è quanto mi è venuto in mente stamattina, quindi ve la racconto, che potrebbe invece essere, diciamo, l'ottica economicista quella sbagliata, invece forse quella più giusta, l'ottica del diritto come linguaggio. E dunque, laddove il diritto tende ad espandersi, ad invadere la sfera sociale e anche la natura, perché non allora dismettere quel linguaggio astratto che è quello della moneta e non invece ricorrere alla natura stessa? Cioè, per quale motivo fare a meno di questa dimensione quando oramai è stata invasa sostanzialmente? Quindi in questo modo potremmo pensare che il diritto ha inglobato la tutela della natura, perché ha inglobato la natura stessa, ha inglobato gran parte della sfera sociale e così via, il che spiegherebbe tante cose, cioè spiegherebbe questa tensione appunto verso la tutela in forma specifica, spiegherebbe perché il discorso che fa Jan Thomas a proposito della natura, non del carattere non ontologico delle cose nel diritto romano, sia oggi per esempio totalmente in contrasto con studi, per esempio cito qui Antonio Gambaro, che invece tende proprio a ricoperare nel suo volume sui beni, tende proprio a ricoperare l'ontologia delle cose, che è un'ontologia giuridica che ovviamente matura dentro una tradizione giuridica, ma ha una sua essenza che ha anche una componente naturale, della fattuale. E quindi mi sembrerebbe appunto che questa ipotesi, per quanto probabilmente infondata, comunque insomma mette in qualche modo in evidenza Una cosa che emerge appunto da tutto il volume è che questa tendenza del diritto a colonizzare la realtà. Grazie, adesso l'ultima parola prima delle domande, dibattito al curatore di questo bellissimo volume e anche colui che ha scritto un saggio importante alla fine. E la parola non può che essere penultima, ovviamente, e io però prima di iniziare faccio qualche ringraziamento di rito e quindi un po' di retorica da presentazione ce la metto io, perché insomma mi ha fatto davvero molto piacere ascoltare tutto questo, e senz'altro ad averlo saputo prima anche la postfazione ne avrebbe beneficiato, però insomma speriamo che sia anche una conversazione destinata a durare, anche perché, così do un'informazione di natura editoriale, ho sentito Stefano Verdicchio che non poteva essere qui, che è l'editore Quodlibet, e insomma abbiamo in programma di proseguire con la pubblicazione di saggi di Jan Thomas in questa veste, diciamo così, di pillole, perché di gettoni, in modo tale anche da dare tutto lo spazio il tempo soprattutto, voglio dire, per metabolizzare testi che, benché succinti, sono di una densità di temi e hanno entrate molteplici. La discussione di oggi secondo me ne è una testimonianza evidente, abbiamo parlato di tutto, ma io penso in ogni caso con enorme pertinenza. Io non ho un testo in effetti da leggervi, ma ho delle riflessioni che cercherò di ridurre al minimo, perché siamo anche stanchi, però raccogliere in ogni caso la quantità di stimoli secondo me in sé è un esercizio assolutamente da farsi, perché mi sembra che non per un gusto del tutto si tiene, ma che ci sia invece un filo robusto, più che robusto in questa discussione, che ovviamente va a maggior gloria di Jan Thomas, ma anche credo a nutrire delle piste di ricerca più legate a urgenze contemporanee, attuali. In questo senso, allora, io avevo pensato di dire tre cose, però mi piacerebbe anche tornare solo così come spigolature su alcune cose che sono state dette, non so se ci riesco perché sarò necessariamente disordinato. Ma insomma, il primo tema, non ho alcun dubbio che Paolo lo avrebbe sollevato, è quello del rapporto tra Jan Thomas e le scienze sociali, e questo secondo me si ricollega anche moltissimo all'entrata di gioco di Gabriella Bonacchi sul rapporto con la storia delle donne, la storia di genere, perché mi viene in mente anche l'uso che si è fatto di Jan Thomas molto recentemente in Francia durante la discussione del mariage pour tous. Tra l'altro una discussione che come tale è molto interessante rispetto al rapporto tra diritto e società, perché al di là della cultura politica alta che si è espressa anche di fronte a un tema evidentemente controverso, al di là dei giudizi di valore, però Jan Thomas poteva essere portato sugli scudi da oscurantisti, psicoanalisti lacaniani, tanto quanto da teoriche queer come Marcela Yacoub, che a modo suo è una sua allieva e che fa un uso impressionante, spregiudicato, assolutamente demoralizzato delle costruzioni teoriche di Jan Thomas, applicandole spesso in modo anche abbastanza sensato a figure della morale e dei rapporti tra morale e diritto, quindi di bioetica in senso lato, assolutamente croccanti, insomma. E allora, per tornare invece al rapporto in senso più generale possibile tra Jan Thomas e le scienze sociali, questo è un libro impressionante. La sua soglia è un ringraziamento a uno dei massimi interpreti dell'antropologia sociale francese, Maurice Godelier, che certo se l'è suonate per 25-30 anni con Lévi-Strauss, però di mestiere fa l'antropologo sociale, ha lavorato sul dono e sullo scambio. E lui dice che questo studio non avrebbe avuto ragion d'essere senza gli studi e le ricerche di Godelier. E poi non fa che dire ripetutamente, ah, ma questo, insomma, l'antropologia non serve a niente, in questo caso la storia economica men che meno, la storia sociale, ma... E allora è buffa anche questa strategia di occultamento delle... diciamo sì, delle convinzioni teoriche di Jean Thomas. E allora quando Paolo diceva che bussava alla porta di Durkheim, mi è venuto in mente un altro libro che è una specie di rarità, che è questo Los Artificios de las Instituciones, che Jean Thomas pubblica in Argentina, a Buenos Aires, e che è una raccolta di saggi, per cui non c'è niente di... E di nuovo, salvo due pagine di introduzione che sono sorprendenti, appunto, per chi fosse abituato a questa discrezione, o insomma, anche secondo me è una strategia testuale, poi probabilmente, ecco, Paolo potrebbe dirne di più, però in questo caso l'esplicitezza della contrapposizione con le scienze sociali è altissima. Leggo due piccoli pezzi, e dice che questo libro è dedicato all'istituzione, al concetto di istituzione, vale a dire le forme costruite della vita sociale, forme costruite e non spontanee. Considero qui queste costruzioni dal punto di vista giuridico. Nella lunga storia dell'Occidente il diritto fu il mezzo per eccellenza per la costruzione istituzionale. Di questi montaggi fatti di parole che diciamo, hanno come condizione di essere proferite da chi ha il potere per farlo e hanno la singolare proprietà di promuovere l'esistenza di ciò che enunciano. E poi dopo c'è un riferimento esplicito a Durkheim, no, esplicito, implicito, ma insomma, che per chi vuole capirlo, dice insomma... la storia e le scienze umane in generale hanno sicuramente come oggetto quello di mostrare che nulla che ciò che determina il divenire delle società umane sfugge alle elaborazioni assai sofisticate della cultura, compresa anche la cultura detta erudita. Però il mondo delle istituzioni non fa accedere a un grado più elevato della coscienza dell'artificio, perché la società stessa appare qui come fabbricata dall'esterno con l'aiuto di una macchineria, non so come si può dire, un apparato macchinico, insomma una macchinazione forse, in cui tutte le teorie della sovranità ci offrono soltanto il versante mitologico. Noi ci interesseremo qui del versante propriamente tecnico di questo assunto. Nel mondo delle istituzioni niente può avere statuto di dato. La idea di fatto sociale e a posteriori di fatto sociale totale non ha da questo punto di vista alcun significato. Che è una cosa gigantesca. La scrive in spagnolo, penso per veramente 25 lettori in questo caso, e però è ci sarebbe da fare, insomma, un'opera di esegesi enorme, e da questo punto di vista probabilmente anche di relativizzazione di questo dato, nel senso che per esempio, e qui però già insomma introduco altri temi, è evidente che quello che hanno detto Massimo Brutti prima e Maria Rosaria Marella dopo, c'è qualcosa come una esoticità indepassabile del diritto romano che non serve a pensare problemi simili ma non uguali, e quindi probabilmente alcune risorse delle scienze sociali potranno essere mobilitate allo scopo, e lo scopo per esempio è pensare questa istituzione del valore. Cioè è vero che qui c'è un grande esercizio sulla istituzione giuridica del valore, però probabilmente il valore non si istituisce solo giuridicamente, o comunque il valore oggi non si istituisce solo giuridicamente. Ecco, e questo per esempio è un tema di attualizzazione, a mio modo di vedere, per nulla forzata, ma in cui si può dialogare. E le scienze sociali, per esempio, hanno da dire anche storicamente. Penso a un libro di Renata Ago su Gusto delle cose, in cui si vede, e non è certo, mi sembra di poter dire, una storica che non, come dire, ha una visione degnosa del diritto, ma invece lo considera, il ruolo di certificazione dei tribunali è grande, e tuttavia c'è un commercio con le cose, una negoziazione del loro valore, che potremmo chiamare una specie di istituzione casalinga del valore, ed è una cosa enorme. C'è un libro recente di Alain Cottreau dedicato all'etnocompatibilità di l'etnocontabilità, pardon, di una famiglia andalusa, in cui si mostra esattamente che cosa conta nel fare i conti delle cose del genere, non a prescindere dal diritto, ma in una chiave evidentemente assai più complessa e relazionale da un lato, e reticolare dal momento che chiama in causa altri saperi che il diritto, a cui il diritto può essere cieco, e soprattutto questa macchina. Poi moltissime altre cose, il rapporto, abbiamo detto, con Kelsen, ecco, e quindi la mia insistenza, diciamo, banale nella postfazione sul costruttivismo, sul performativo, eccetera. Perché in Jan Thomas mi sembra soprattutto una cosa sia, cioè il diritto in prima istanza non regola, descrive, o meglio, regola solo in virtù di un certo modo di descrivere le cose. Questa idea di diciamo, di produrre significato non si dà attraverso una distribuzione di significato alle cose del mondo, ma ogni volta di un'istituzione di un mondo parallelo in cui le cose si regolano giuridicamente e gli effetti di questa regolazione si propagano sul mondo, diciamo così, quello vero. Ecco, adesso ovviamente prendete con un po' di beneficio di sintesi quello che dico. E questo va anche nel senso di quest'ultima notazione di Maria Rosaria Marella, cioè questo neonaturalismo di ritorno in tanti campi dello scibile. Io, diciamo, conosco meglio la filosofia, ma insomma neorealismi, roba del genere, parlano anche di questa tendenza. In questo Jan Thomas, secondo me, è un antidoto formidabile, perché insomma, in fondo spiega una cosa enorme e banale come quella che la natura è il massimo dell'artificiale. Insomma, la natura è istituita anche lei, quindi discorsivamente prodotta. Ora, così sembra gergo, ma in realtà è qualcosa che nelle pagine di Thomas si nutre di, insomma, di un apparato argomentativo molto, molto robusto. E quindi, insomma, in realtà autoreferenzialità, autonomia del diritto e Jan Thomas sono il massimo dell'estroflessione, cioè il lato più sociale del diritto sta nel fatto che il diritto prescinda dal sociale, e quindi questa idea delle istituzioni che fanno a meno degli attori non credo sia un argomento, come dire, per cui disprezza le relazioni incarnate o quant'altro, ma al contrario, diciamo, è proprio in virtù di questa formalità che anche creatività, trasformazione sociale possono darsi. E in questo senso vengo alla questione vita, alla vita e le regole, diciamo così. Cioè, l'idea è proprio questa: la tensione o la separazione tra vita e regole si tiene proprio perché la vita è il non regolabile in termini giuridici, cioè non è istituita giuridicamente. Lì c'è una polemica forte dietro a quella frase, che è una polemica con un altro personaggio del Pantheon di Jan Thomas, che è Pierre Legendre, questo importante storico del diritto e psicoanalista lacaniano, con cui Jan Thomas ha lavorato su temi molto urticanti come quelli della filiazione. E quindi Legendre ha sostenuto per anni che nel digesto ci sia l'espressione, insomma, compaia questo sintagma instituere vitam, e Jan Thomas ha dimostrato che essere falso, insomma, questa occorrenza non è rinvenibile, e diciamo tutto ciò che discende da questa capriola filologica è destituito di senso, da cui appunto le operazioni di Marcela Jacob da un lato e quanto dicevamo. Per cui, insomma, l'idea è che il diritto abbia ha più a che fare col rito e meno con il mito, quindi in fondo meno con le narrazioni, e che a queste obiezioni di natura socializzante non risponde come dire, in modo sprezzante, ma proprio, come si può dire, aprendo questo spazio che è semiotico e pragmatico insieme. Per questo l'insistenza sulla procedura, perché è dove i significati sociali si producono ma si negoziano anche. Quindi questo termine, diciamo, di lite, di dibattimento, secondo me va tenuto, sì, cioè, secondo me, insomma, è un'idea che mi viene dalle letture, dallo studio, in questa chiave autoritativa, perché questo c'è, cioè è una parola che si litiga, poi è una parola decidente, è una parola che taglia via qualcosa proprio, e tuttavia è un'autorità dotata di un coefficiente cognitivo alto, cioè non è una specie di irrazionale decisione. Questo dato linguistico e cognitivo, che non è esplicitato in termini, se volete così, metafisici da Iantomà, è cruciale per capire anche la trasformabilità dei prodotti del diritto, cioè è in virtù del fatto che sono fabbricati con questa cosa strana che è la parola efficace, che possono essere anche trasformati, ridiscussi, ed è anche il fatto per cui oggi il diritto è questa specie di arena così politicamente saliente. Allora i beni comuni c'entrano, e come, secondo me, anche solo da questo punto di vista. È stata una cosa abbastanza inaudita il rapporto tra tecnici del diritto e movimenti sociali, perlomeno era un po' che non si vedeva a questo livello anche di ma insomma di qualità della produzione intellettuale e della pratica politica. E ci sono due famosi antropologi del diritto americani, i coniugi Komarov, che hanno lavorato tanto su questa idea di teolegalità, proprio parlando in fondo di questo, che oggi la costruzione dell'identità, diciamo così, la fabbricazione di claims dotati di una qualche udibilità presso le autorità si fa attraverso il linguaggio giuridico e in particolare in tribunale, no? E quindi questa crucialità della procedura resta grande. Forse mi fermo qui, perché ho detto già molte cose malamente no, ecco, soltanto una cosa anche sul rapporto con i beni comuni, il perché questo libro può essere usato, diciamo così. Secondo me non solo, o forse non tanto, e proprio in virtù di questa alterità di Roma, che io credo poi Iantomà abbia sempre esibito, cioè non era un neopandettista, per cui non c'era nessuna idea di diciamo durata transtorica degli istituti, delle categorie, ma anche in chiave negativa. Cioè con questo libro si ha anche un accesso a questo tema dell'indisponibile, del rapporto tra merce e cosa, fuori da un'idea invece che aveva pescato sempre nel Medioevo i suoi, come dire, il suo presepio con cui parlare di beni comuni. E secondo me questo ha un effetto molto positivo, perché porta via da idee comunitariste, fusionaliste. In questo, diciamo, l'artificialismo secondo me è molto più garanzia di differenza che non la confusione della comunità contadina, di cui però non si, diciamo così, si omettono i rapporti di forza e le diseguaglianze eventuali. No, ma infatti poi grazie moltissimo. La lite è una relazione, cioè, presuppone una relazione e la valorizza, insomma. Innanzitutto grazie perché questo libro, almeno per quanto mi riguarda, è stato davvero utilissimo, nel senso che quando è uscito mi ha consentito di tradurre due pagine di Dardo e Lavalli immediatamente, senza prendere altro tempo, perché fatto appunto il copia e incolla della traduzione, dall'altro è bellissima, che mi ha consentito di capire in realtà quello che volevano dire Dardo e Lavalli, ecco, che era ancora più difficile di tradurre. La domanda che ti faccio è una domanda di metodo e la metto in maniera anche un po' plurale, parafrasando il libro di Aurelio Lebedi un po' di tempo fa. Che c'entra Agamben con Tomasi? Cioè, voglio dire, Paolo Napoli evidenziava come, dal punto di vista metodologico, l'opera di Tomasi è un'opera di ontologizzazione storica. Viceversa, penso a Signatura Rerum, il metodo agambeniano è un metodo paradigmatico astorico, no? Se non addirittura astorico. Il dittato romano è lo stesso schema, modello, che poi è sotteso ad Auschwitz piuttosto che a Cie, per non parlare di Homo Sacer. Non voglio banalizzare da questo punto di vista. Voglio semplicemente dire che mi sembra che in Agamben ci sia un'economia del discorso finalizzata a produrre paradigmi che poi sono funzionali a sistemazioni logiche, mentre in Tomas c'è la formalizzazione, se vogliamo, anche di paradigmi in qualche modo, ma resto fedeli a Paolo, di un'ontologia storica che è però funzionale di volta in volta, perché storicamente situata, a risolvere determinate questioni. E allora mi veniva in mente il saggio sul diritto giurisprudenziale di Luigi Lombardi Vallauri, no? Lì hai un saggio scritto dall'alto negli anni dello strutturalismo, e metodologicamente l'influenza strutturalista è forte lì, in cui lui fa una sorta di ontologizzazione storica dell'antiformalismo giuridico, facendo di vedere come di volta in volta, in un contesto storico diverso da quello precedente, romano, periodo medio, moderno, contemporaneo, l'antiformalismo aveva una sua funzione, che però non era una funzione di sistemazione logica dei concetti, ma concreta delle esigenze e degli interessi che si muovevano nella società. Quello che voglio dire è che la categoria dell'inappropriabilità agambenianamente potrebbe essere letta in funzione di giustificazione dei beni comuni, ma tomasianamente ci serve a dire: guardate, voi storicamente potete utilizzare l'operazione del diritto per far emergere questa falsa ontologizzazione che invece il neoliberismo fa. E quindi su questo ti volevo chiedere un po' come sei riuscito un po' a, che idea ti sei fatta sull'armonia tra questi due metodi. E poi una breve osservazione rispetto ad Orestano. Sì. Tu dici, per Tomas il diritto descrive, nomina la realtà, però è interessante notare come la critica che lui fa sulla eredità odiosa è proprio questa che lui fa ad Orestano. Secondo me c'è, come dire, un'incomprensione di una vis polemica un po' fine a se stessa, perché Tomas dice: tu stai ontologizzando i nomi, mentre in realtà il nominalismo di Orestano in qualche modo arriva, dal mio punto di vista, questo punto dovrà correggermi, arriva ad esiti sostanzialmente simili nella misura in cui l'obiettivo ancora una volta resta Gelsen. Non so se prego. Per me è più facile rispondere prima su Orestano, nel senso che l'altra domanda è anche biograficamente più impegnativa, ma io sono d'accordo, nel senso che tra l'altro avevo portato Orestano perché a me sembra che, a parte la bellezza assoluta di questi saggi, ma questo è un'altra questione, lì ci sia sì un eccesso polemico e credo anche in parte probabilmente un'incomprensione, insomma, nel senso che Orestano mi sembra un autore utilissimo nello stesso senso, perché questa continua insistenza sulla storicizzazione, il contesto, ma sempre in chiave giuridica, nel senso di mantenere questa tensione, questa polarità, mi sembra che in fondo additino lo stesso nodo teorico e lo stesso luogo. C'era la fine di questo saggio, che diritti soggettivi e diritti senza soggetto, che se posso, cioè abbiamo il tempo, sono un capoverso, però mi sembrava estremamente risonante con quello che si diceva. Sta parlando dei diritti senza soggetto in conclusione del saggio, e dice: bisogna convincersi infatti che gli ostacoli fin qui incontrati ad ammettere situazioni del genere sono dipesi e dipendono esclusivamente dal modo come noi impostiamo i nostri concetti e dal contesto in cui li inseriamo. In altre parole, gli ostacoli sorgono in noi e per opera nostra se poniamo i nostri concetti in modo tale che essi subsumano solo aspetti parziali dell'esperienza. È ovvio che, fissati i concetti in un dato modo, sia opera vana cercare di farvi rientrare a forza dopo, cioè che ciò che noi medesimi abbiamo esclusi da essi prima nel costruirli. Con un esempio un po' banale ma evidente potremmo dire che è come definire il triangolo e poi meravigliarsi che non comportando quattro angoli e quattro lati il suo concetto non sia idoneo a rappresentare anche le figure quadre. Purtroppo molti ragionamenti e molte discussioni che si sono fatte intorno al diritto soggettivo e ai diritti senza soggetto non hanno maggior senso e valore di quelle che si volessero fare sull'ammissibilità o meno di un triangolo a quattro lati. Il che però non significa affatto che nel mondo del reale non vi siano anche i quadrati e che non sia compito della scienza tenerne e darne conto. A me questo sembra una cosa, credo, che Antomà avrebbe assolutamente sottoscritto, perché è quanto dice nella presentazione a quel volume delle Annal che citava Paolo. È questo rapporto complicato di rifrazione tra pratiche e concetti, indepassabilità del riferimento del diritto al sociale e di un rapporto che è di continuo rimando. Il punto è che qui evidentemente il diritto ha una preeminenza perché ha questo valore fondativo, linguisticamente primo, il che però non è che è una cosa che vuol dire allora che il sociale è meno vivace o meno creativo, anzi forse lo è di più, perché ha a disposizione un linguaggio particolarmente efficace e poi anche terribile, però insomma in questo sta l'idea. Quindi su Oristano questo, poi se Massimo Brutti vorrà aggiungere invece su Agamben, beh, non è che posso dire cosa penso di Agamben in generale, perché non è il tema. Giorgio Agamben ha avuto con Jan Thomas un'amicizia lunga e uno scambio intellettuale vero, nel senso che tra l'altro Homo Sacer è costruito su un saggio di Jan Thomas sulla Vite Necisque Potestas, che è un saggio sulla patria potestà, il rapporto tra padri e figli maschi a Roma e la dimostrazione che la capacità giuridica dipendeva dal rapporto col padre, ovvero sia dal fatto che fin tanto che il padre era in vita il maschio non era davvero soggetto giuridico. E quello è un saggio fondamentale poi anche nell'economia di Homo Sacer. Dove si incontrano, secondo me, è in un'altra riflessione che mostra al limite o in evidenza i limiti della prospettiva di Agamben, e cioè sulla ricerca, di cui Paolo è un esponente, di pluralizzare l'idea di normatività, cioè l'idea che il diritto non coincida con la giuridicità, e cioè che esistano modelli non romani di normatività, che l'unico protocollo per pensare il diritto non sia quello della giuridicità, cioè regolazioni di azioni esterne, rapporto tra comando e obbedienza, tutto questo. L'esempio su cui loro lavoravano, e si faceva un seminario privato, anche in compagnia di altri amici, gli antomassiti, sulle regole monastiche. E quello è stato poi l'origine di un libro altrettanto controverso, che è Altissima Povertà, in cui c'è tutto un pezzo che è Jan Thomas, Paolo Napoli, Emanuele Coccia, tutto questo lavoro su esiste un modo di dar forma alla vita che non è quello giuridico, non è quello della giuridicità romana. E Agamben dice, i francescani sono la cosa più, il caso di studio, il paradigma migliore, più interessante per studiare questo fenomeno, e tuttavia sono quelli che non ci riescono fino in fondo, nel senso che vedono l'insegregabilità, di vita e forma, ma non riescono a emancipare la vita dalle segnature, direbbe lui, ma comunque dai concetti, dai predicati, dalle categorie, in definitiva dal linguaggio, dalla storia, per cui è chiaro che dal punto di vista del suo programma speculativo il diritto sarà sempre una bestia nera, perché è fatto di linguaggio, è fatto di azioni, di corpi, l'interesse di Agamben è, secondo me, nel limite che pone la sua posizione, è in fondo una delle più straordinarie critiche della matrice, della volontà, del padroneggiamento, che però non si recupera mai riflessivamente, a meno di non parlare più, di indicare, nel senso che io ho lavorato con lui a questo libro, abbiamo discusso anche di diritto, è stata anche un'esperienza etnograficamente buffa, perché anche in questo piccolo saggio, secondo me, c'è un po' di resipiscenza gambeniana rispetto a quello, insomma, allo stile Agamben sul diritto. Però questo sarebbe forse un altro incontro, ecco, non volevo. Però se invece io ascolterei qualcosa su Restano. Sì. Spanò ha letto l'ultimo capoverso di un saggio del 1961 che secondo me rappresenta uno dei punti più avanzati della ricerca di Orestano, mentre quei riferimenti di Thomas alla problematica del nomen sono riferimenti a tesi che Orestano ha ereditato e ha riprodotto da ricerche precedenti, e mi riferisco a ricerche che sono a cavallo della guerra, della seconda guerra mondiale, su elemento divino ed elemento umano nello ius. Allora, in quelle ricerche c'è effettivamente un certo influsso sociologico, soprattutto di dottrina francese, diciamo, e c'è la tendenza a ricollegare in un senso che è del tutto opposto rispetto a quello che abbiamo visto nella ricerca di Jan Thomas, a ricollegare il farsi del diritto ad uno sfondo che è lo sfondo dei riti, lo sfondo religioso, lo sfondo della indistinzione tra esperienza religiosa ed esperienza giuridica. Secondo quegli studi, il diritto nel suo formarsi, soprattutto nelle idealità che lo guidano, il diritto romano dell'età della giurisprudenza, mantiene un ancoraggio forte all'esperienza religiosa. Quindi dalla indistinzione si è giunti ad una definizione di un oggetto specifico che è l'oggetto su cui lavora la giurisprudenza, ma questo oggetto mantiene forti elementi di ritualismo che per tutta una fase continuano ad essere presenti nelle forme del processo, la procedura per legislazione, eccetera, e c'è una continuità. Invece, diciamo, nelle ricerche più recenti questa idea non c'è più, cioè questo rischio di confusione tra il nome e la cosa, che nell'idea della parola creatrice in Orestano un po' c'era. Io ricordo anche come sono state scritte quelle note del volume sulle persone giuridiche in cui si ripropone l'idea del nomen, della parola creatrice, eccetera. Là lui riprendeva intuizioni e studi di anni precedenti, mentre invece in questo scritto del 61 c'è veramente una forte innovazione rispetto a tutta la dottrina contemporanea. Io sono molto contento che oggi ci siano studiosi giovani che lo rileggono, perché nella cultura giuridica italiana questi studi di Orestano sono stati omaggiati ed immediatamente abbandonati, e quindi rileggerli oggi credo che un po' un senso e un'utilità possa averlo. Dopodiché io vorrei dire una cosa su questa frase dalla quale ero partito e che secondo me individua il rapporto fra Jan Thomas e Agamben. Cioè Agamben riprende un punto: la vita non è in nessun caso un concetto giuridico, cioè la vita non è giuridica, non ha in sé una giuridicità. La giuridicità è il risultato di operazioni che si costruiscono dall'esterno rispetto alla vita. Il diritto serve a governare la vita, ad un disciplinamento della vita, ma non è la vita, non può identificarsi con la vita. Ora noi siamo, tu evocavi, ricordavi il libro di Lombardi Vallauri, noi siamo stati anche influenzati dall'idea che rispetto alla strattezza delle norme generali dei codici, rispetto alle costruzioni concettuali soprattutto di impronta pandettistica, bisognava andare a ricercare un, tra virgolette, diritto vivente, che era quello che si applicava, che era quello delle pronunzie giudiziarie, che era quello delle prassi. E in questo introducendo, a mio avviso, una concettualizzazione ambigua. Io penso, utilizzando naturalmente questa lucida impostazione di Thomà, che il diritto sia una cosa e la vita un'altra, cioè che ci sia chiaramente una distinzione, perché il diritto governa, disciplina, e poi perché c'è questo momento della, possiamo chiamarlo, della costituzione, della risoluzione autoritativa, insomma, inevitabile nel mondo del diritto, e quindi non è la vita, non può essere la vita, non può essere ricondotto alla vita. Nelle consuetudini, nel diritto consuetudinario, vi è anche qui un momento prescrittivo. Nella iterazione dei comportamenti che fondano una prassi sociale vi è comunque la preponderanza degli interessi delle classi dominanti, vi è comunque l'espressione di un rapporto di forza, quindi vi è comunque una prescrizione, un governo delle prassi, anche nelle attività consuetudinarie, quindi anche nel diritto consuetudinario. Quindi io mi manterrei ferma, perché mi sembra molto giusta, e anche in quello giurisprudenziale, ovviamente, quindi diritto vivente per modo di dire, perché comunque il diritto giurisprudenziale si manifesta attraverso enunciati prescrittivi, saranno particolari e concreti, ma insomma sono enunciati prescrittivi. Ora, la differenza tra Jan Thomà e Kelsen, a mio avviso, è nel fatto che Kelsen pone, diciamo, questa artificialità del diritto, questo schema del diritto come finzione, il diritto che finge, la norma che finge il soggetto e così via, dentro il quadro di una identificazione tra diritto e complesso di norme espresse. Quindi, diciamo, rispetto alla consuetudine, la posizione di Kelsen è abbastanza critica, cioè la consuetudine, finché non si traduce in norme, magari possono anche essere desunte dalla scienza giuridica, ma finché non si traduce in norme, cioè in enunciati normativi espressi e possibilmente generali ed astratti, non è diritto. Diciamo, alle spalle di Kelsen c'è questa grande distinzione, questa grande divisione che mi pare nasca con Hume, tra l'essere e il dover essere, il linguaggio dell'essere e il linguaggio del dover essere, e che tutta una corrente del pensiero giuridico europeo ha fortemente drammatizzato. Ora, mi pare che il merito di Jan Thomà è di individuare questa differenza, questa distanza del diritto dalla vita, senza tradurla necessariamente in questa grande divisione tra l'essere e il dover essere, perché poi dentro l'essere vi sono tutta una serie di tensioni che determinano governo, potere, insomma. Il concetto di potere è un concetto che va applicato in modo, come dire, molecolare, cioè quindi sta dentro l'essere il potere, quindi sta anche dentro l'essere la prescrizione. L'aggettivo molecolare era, come voi ben sapete, un aggettivo molto caro a Gramsci, e ci consente di svolgere una serie di indagini che come dire, vanno al di là di schemi generali e della loro cristallizzazione. Io volevo dire un'ultimissima cosa rapida su quello che diceva Maria Rosaria, cioè la domanda era: perché l'affermarsi del risarcimento in forma specifica nell'epoca del capitalismo, nell'ambito dei rapporti capitalistici di produzione e di scambio? Io non so, bisogna riflettere naturalmente, e in realtà non mi ricordo di queste indicazioni che io ti avevo dato, boh, non so quali non so quali potessero essere, forse soltanto indicazioni bibliografiche, immagino. Però, diciamo, perché l'affermarsi del risarcimento in forma specifica nell'ambito dei rapporti capitalistici di produzione e di scambio, mentre invece noi nella tradizione romana, nella tradizione del processo formulare, noi abbiamo questa definizione del valore di scambio attraverso il processo e la condanna è sempre e necessariamente pecuniaria? Ma una risposta potrebbe essere che nell'ambito dei rapporti di produzione e di scambio capitalistici il valore di scambio è talmente universale, talmente dominante, che non ha bisogno del processo. Il processo può anche concludersi con un risarcimento in forma specifica. Nell'esperienza romana il processo è davvero il luogo, e forse l'unico luogo, in cui si definisce e qualifica con certezza il valore di scambio di una cosa. Perché il valore di scambio, richiamavo prima su questo le pagine di Gramsci sui cenni storici sul capitale commerciale, il valore di scambio in una società schiavistica è abbastanza problematico, non ha, come dire, l'universalità, la dominanza che ha nell'esperienza moderna, diciamo, e questa forse potrebbe essere un'ipotesi di risposta. Volevo dire una cosa, inserire in cuneare una riflessione sulle cose anche molto interessanti che diceva Michele, che diceva Michele prima, a proposito della dimensione relazionale, che perché giustamente Massimo Brutti insiste sul carattere autoritativo, no, dei riti che fanno esistere le cose grazie al diritto, no? C'è questa dimensione autoritativa. Però la lite è presuppone una relazione, cioè in cui poi c'è qualcuno che vince e che perde, ma c'è un contraddittorio. E mi veniva in mente, questa è la cosa interessante e forte, ed è il discorso anche del rapporto tra Thomas e Heidegger, perché è chiaro che è il linguaggio, il medium, no? che esplicita la potenza creativa della parola, eccetera. No, però volevo semplicemente invitare una riflessione generale a proposito di questa potenza del diritto sull'esempio del gender. Qui c'è Ida, sappiamo tutti benissimo quanto è stato faticoso introdurre un discorso sul gender in italiano, malamente tradotto con genere, no? Che invece, insomma, una riflessione americana aveva reso molto forte, molto interessante, eccetera. Sto parlando di John Scott e del suo discorso appunto sul gender, non sul genere, ma proprio sul gender. Ecco, e come adesso questo gender, che era un fantasma evocato da alcune femministe colte, transoceaniche e così via, da altri rifiutato come tradimento della natura, cioè addirittura un poi divenuto Papa, Benedetto XVI, fece una enciclica contro, senza nominarla direttamente, contro Judith Butler, che era l'incarnazione della filosofa che aveva per primo parlato di questo. Adesso c'è una sentenza della Cassazione di luglio, cioè impressionante, la Cassazione. Ecco, cioè questa, noi veniamo all'opera, la potenza creativa, non so, no, sì, di questa cosa, sì. Cioè si va creando proprio in questo modo. Scusa, giusto perché la cosa viene proprio su un piatto. Allora, un dato così biografico. Negli anni 90, quando in Francia furono emanate le leggi sulla bioetica, si impostò alle conduzioni di un seminario di casuistica, appunto, che affrontava vari temi di bioetica e durato per diversi anni. Nel corso di una seduta, una ricercatrice sollevò la questione del sentiment d'identité, sentiment de soi. Immaginate quale fu la reazione, le strapparono da parte dei giuristi, diciamo, qualsiasi possibilità di replica, lei non osò più proferire questa esibizione del foro interno in un teatro giuridico che il foro interno proprio non voleva considerare, perché c'è l'astrazione per eccellenza, che è il soggetto di diritto, centro di imputazione astratto, in cui, diciamo, un contenuto così privato non ha neanche modo di essere preso in considerazione. Questa si ritirò, dice: forse ho detto una cosa che non avrei dovuto dire. Ovviamente con la sentenza di luglio questo adesso è possibile. La sentenza di luglio della Cassazione ha esattamente a parte la ripresa della tematica gender, diciamo, in tutta la sua possibile sfaccettatura, ma anche decretato la morte del soggetto di diritto, diciamo, l'astrazione del soggetto di diritto così come l'abbiamo conosciuta, diciamo, da 200 anni. Quindi effettivamente nell'arco di 15 anni, diciamo, c'è stata un'evoluzione che non so neppure se a livello di Cassazione francese è a questa punta così avanzata. Non mi pare che ci sia stata questa sorta di potersi essere identità indipendentemente dal corpo, cioè questa, diciamo, questa sorta di cartesianismo che ritorna di colpo nella con effetti, diciamo, assolutamente strabilianti per impensabili. No, vi domando una cosa, ma è possibile tirar fuori dal discorso di Tomà il seguente enunciato, che in epoche storiche diverse ciò che si ritiene sottratto al privato e alla dimensione del privato dipende da una costituzione politica e non da un dato oggettivo, non da un dato ontologico? Io credo che questo per il movimento dei beni comuni sia un punto importante, no? E beh, lì c'è tutta la polemica contro il neotomismo, il diritto. la natura del sacro. Quindi il bona communia omnium, che per Marciano, che era un vecchio giurista dell'età dei Severi, bona communia omnium in base alla natura, diciamo, invece per noi sono il punto d'arrivo di una costituzione politica. Però anche per Tomà. Appunto, certo. Dico, sulla scorta, leggeva sulla scorta senso, di Tomà. Forse io sono sicuro che non tutti i romanisti la pensano come lui su queste cose. Sarebbe interessante capire anche quali sono le obiezioni possibili, oppure anche quando lui, con una professione di giurista, diciamo, totale, quando lui dice, in questo senso più che di storico, qui a un certo punto lui dice... così. La classificazione dogmatica è rivelatrice della pratica. Cioè, sostanzialmente lui dice, il diritto è quello, come dire... immobilizza la pratica e quasi le si sovrappone. Certo, le si sovrappone, certo. Allora, il discorso, ho sentito fare per esempio una volta Dario Mantovani, dice, ecco, questo bisogna vedere se le cose andavano così realmente rispetto al, diciamo, al comando dogmatico, o alla forma dogmatica che hanno preso. Questa, diciamo, se per le fonti storiche dell'antichità è più difficile stabilire, questa è una questione di rimente su cui sono, come dire, affrontati gli storici del diritto e storici generalisti dell'età moderna, dove le fonti si moltiplicano, allora lì puoi dire no, guarda che gli attori andavano in un altro verso rispetto a quello che prevedevano le norme, cosa che tra l'altro è una banalità. Franco, diciamo, Cordero, Cordero, ma anche poi tutti, diciamo, dal versante della storia sociale, tutti i quaderni storici hanno costruito la loro identità su questo, come dire, rimozione dell'istituito predeterminante, diciamo. Ecco, non so se nell'ambito della Romania, perché noi sappiamo che non era immediatamente accettato dalla parte della dalla romanistica, cioè, non solo dalla romanistica, vorrei capire anche dalla storia del diritto romano, che è una cosa diversa ovviamente. Non so, io mi permetto di dire che non è una cosa diversa, cioè voglio dire, noi abbiamo gli studi di diritto romano, che sono un universo disciplinare, insomma, con una lunga tradizione, una grande storia, eccetera. Ora, negli studi di diritto romano, diciamo, dall'Unità d'Italia in avanti, è prevalso un aggancio molto stretto con gli studi di diritto civile, istituzione di diritto privato, diritto civile, eccetera. Quindi il diritto romano era funzionale al privato, allo studio delle discipline privatistiche. Dopodiché, di lato, c'era un insegnamento storico che serviva a fare un po' di storia del diritto pubblico. E quindi gli studi di diritto romano, noi diciamo le cattedre erano un po' fungibili, uno insegnava storia del diritto romano, un altro insegnava istituzione, insomma, grosso modo. È prevalsa a lungo e tuttora è molto forte una tendenza a costruire sul diritto romano modelli che possano essere immediatamente, direttamente comparati con i modelli del presente. Quindi è evidente che quando tu ti metti in questa prospettiva, che vai alla ricerca della comparabilità, poi arrivi poco dopo all'attualizzazione. E questa è una cosa che è molto forte negli studi di diritto romano. C'è stata una rottura di questa tendenza negli anni 70, e poi invece di nuovo, insomma, un po' un ritorno conformistico, oggi favorito dall'organizzazione universitaria, che cosa bisogna produrre, le valutazioni, insomma tutta sta roba qui, favorisce naturalmente il ritorno a impostazioni dogmatiche. Quindi secondo me, no, Jan Tomà è studiato, ne parlavamo prima, un saggio sul numero del 2013 di Studi e Documenta Historia et Iuris di Elena Giannozzi, che io non conosco, un saggio scritto in francese sulla patria potestas negli studi di Jan Tomà. Quindi mi pare che sia, soprattutto dai giovani, mi sembra, preso sul serio. Non so, alcune cose di Schiavone risentono molto della lettura di Jan Tomà, non giovane, ma insomma uno che lo prende sul serio, che lo ha studiato. E poi mi sembra letto, però certo è una prospettiva che non ha molto spazio, insomma, non, nella romanistica più forte, che è quella italiana, perché in Germania... è diventata una specie di parte del diritto civile, dello studio del diritto civile, quindi attualizzazione, c'è, cioè, questo Zimmermann che è un attualizzatore scatenato, insomma, una cosa che è quasi illeggibile, diciamo. Uno squalo dell'attualizzazione. E, E quindi, insomma, è un po' una nicchia. Io dicevo prima che quegli studi di Restano sono stati molto apprezzati, soprattutto dai cosiddetti giuristi positivi, insomma, tutta la problematica delle persone giuridiche. C'era stato questo lavoro di D'Alessandro sull'analisi del linguaggio. Insomma, lui dialogava ha svolto un'influenza su Stefano, sulle cose di Stefano. C'era una lettura attenta da parte di Herodotà di questi lavori di Orestano. Però sulla romanistica ha inciso di meno, insomma. Uscire tra non molto un inedito a cui lui stava lavorando, che era quasi finito quando è morto, che si intitola, e questo immaginiamo che la psicanalisi ci si lancia sopra, La mort du père. Questo è sempre su Quaglibet? No, questo deve uscire prima in Francia. In Francia. Beh, se non ci sono altre domande, grazie a tutti.